Carissimi amici, siamo qui pronti, vi abbiamo chiamato in massa avete risposto, però quello che non sapete è che adesso noi faremo la messa, chiaramente, ci sarà una messa in diretta radio solo per voi, però prima della messa naturalmente c'è un trailer, uno spot che dobbiamo assolutamente mandare per rispetto verso i nostri compagni interni di Runtime. Questo è lo spot di Morfeo. Dormiglioni di tutto il mondo, unitevi! Questo è il podcast per tutti voi all'ascolto. Per tutti voi che... cosa? Dicevo, questo è il podcast che fa per voi. Per tutti voi che siete al volante, o in manovia, o in ufficio, o in fila alle poste, o... Eccolo! Insomma, per tutti voi che vorreste tanto un morbido cuscino su cui appoggiare la testa, ma che volenti o nolenti dovete restare svegli, perché... La vita è difficile. Finisci tu. Morfeo, il talk show per dormiglioni con cui restare svegli. Su Runtime Radio. Ma dai, svegliati. Che figura ci facciamo? Signore e signori, bentornati a Morti di Bestemmie! Ed ecco questo fragoroso applauso dopo la sigla meravigliosa che mancava da tantissimo tempo su Runtime Radio. Mancava a noi, mancava a voi, mancava a tutti quelli che insomma in qualche maniera hanno aspettato invano anche questo momento annunciato e poi cannato. Quindi ci scusiamo anche insomma per aver mancato i nostri appuntamenti. Siamo finalmente qui su Morti di Bestemmie, quella originale, quella che abbiamo dato vita diverso tempo fa e poi l'abbiamo trasformata in mille modi e non sempre siete stati contenti di questo, ma neanche noi. Con me c'è addirittura in studio, incredibile, proprio lui, qua fisicamente ci stiamo bevendo un goccio di non... come si chiama? Invecchiato 21 Scotch, anni. Scottish whisky. Marco Gualdi. Ciao, salve, bentornati in questa bellissima puntata di Morti di Bestemmie. Ci tenevamo tanto a farla questa puntata perché ce l'avamo dentro, la cavavamo con il Covid-19, era dentro di noi, prossimo asintomatici. Siamo asintomatici perché in fondo un po' il Covid pure ci schifa pure lui e questo è un po' una cosa... Se non riusciamo a morire di Covid, forse di bestemmie. Ma poi mi sa che abbiamo fatto una puntata di morti di bestemmie recentemente, solo che io non me la ricordo neanche. Però mi ricordo che sbagliavo i nomi. Quello è un altro sintomo. Facevamo quel gioco dei nomi che facevamo. Invece stavolta no, andiamo lisci perché con noi c'è Alex Raccuglia. Buonasera e buon berserk a tutti quanti. Bene. Aspetta che ti alzo, Raccuglia, perché mi sei ok. Adesso... Minchia, ma sono come se avessi messo i tacchi. No, ma è praticamente ero io che ti tenevo, cioè mi stavi a mezza stecchetta, capito? Mi stavi seduto sul culo, bravo. E quindi questo è il team di Original One, che tra l'altro vi invitiamo ragazzi a cercare Morti di Bestemmie su Telegram, dove troverete il canale, dove troverete vari aggiornamenti, lì non potete interagire. Se no c'è una chat che si chiama MDB The Original One, che praticamente insomma lì la gente muore di bestemmie insieme a noi. L'abbiamo chiamata in questo modo perché quando si chiamava Morti di Bestemmie, la gente entrava a bestemmiare. Non è quello lo scopo del canale. Esatto, vabbè, però non lo sapevano. Quelli entravano, vedevano Morti di Bestemmie. Ma avremmo fatto anche noi. Allora poi dopo abbiamo... Forse è il caso di cambiare. Dovuto, esatto. E uno di quelli che entrava, però non lo faceva. Però avrebbe potuto farlo Lobby Frontali. No, ma io sono entrato bestemmiando, solo era al di là del vostro comprendonio, del vostro capacità cognitive di elaborare le mie bestemmie, quindi non ce la facevate, okay. No. Prima o poi ci cani, perché lui parla con le frequenze superiori ai 20 kHz, per cui non le sentiamo, e automaticamente il font diventa piccolo, 1.1, e non si vede neanche il font. Cazzo, sei troppo avanti. Dovete alzare anche me. Lui parla con delle frequenze superiori ai 20 kHz e noi siamo stanchi, non li portiamo 20 kHz, non ce la fanno. Non li pesiamo di più di 20. Cos'è questo sibilo? Ho paura. Stavo modulando le mie frequenze in modo da farle captare inconsciamente alle vostre cervella e farmi adorare in modo Pizzi, le cervelle, quanto gli piace il termine le cervelle, ma perché quante sono ste cervelle? Cioè io pensavo ce l'avamo uno solo, invece? Ma dipende da persona a persona, più ce ne sono in realtà è un problema, perché la scatola cranica quella è, quindi poi se devono dividere lo spazio litigano, fanno robe, no? meglio avercene uno e che sia stabile, sinceramente. Poi. Perfetto. Allora ragazzi, tanta gente in chat, salutiamo tutti, però prima di salutare tutti, anzi, e entrare un po' nel vivo di questa trasmissione, che c'è un titolo un po' particolare, io voglio dare una spiegazione, che è una spiegazione importante, perché tanti dicono, mi scrivevano, ma perché siete mancati per tutto questo tempo? Che cosa avete fatto? Siamo morti di bestemmie. A parte quello. Esatto. Ma c'è stata una pausa di riflessione anche. Perché noi che cosa abbiamo fatto negli anni con questo programma? Ce la siamo presi con tutta una serie di categorie, no? E ce la prendevamo con le mammine pancine, con... No, ufficialmente con loro non ci siamo arrivati. Non ci siamo arrivati, vabbè. Avremmo però voluto, Questo è il potere forte oscuro delle mammine pancine, esatto, che ci hanno che bloccato. Che arrivano anche quando ancora non ci sono, giusto. Zittirci, zittiscono il potere. Però noi ce la prendevamo, che ne so, con i complottisti. I redneck, gli ufologi. Però, Gualdi, parliamo seriamente, ma se ci avessero ragione? E se ci avessero ragione loro, ci avremmo torto noi, insomma. È una cosa molto brutta, perché quindi significherebbe che... Ci abbiamo sprecato un sacco di tempo. Che Tesla, cioè, ha scoperto come fare i terremoti. Cioè, è una cosa... Quello era il modo... Quello è terribile. Ma, cioè. tu che ne sai? Comunque non lo so, perché io utilizzo lo stesso... Non so tu, però io spesso utilizzo la tecnica di Tesla che sperimentammo nella famosa puntata. E non ci sono terremoti. Ma secondo me perché non c'hai gli adeguati amplificatori. Però aspetta, perché c'è sempre la butterfly effect. Quindi una scoreggia fatta qui, in questo momento, potrebbe essere un terremoto ad Hong Kong. Perché Cipro, anche in altri posti, cioè, ce ne sono stati tanti terremoti. Che ne sai? Posso saperlo. Quindi effettivamente potrebbe essere vero. Potrebbe essere vero. Tu Alex, alla fine te lo sei posto il problema, se secondo te... E se avessimo sbagliato, perché io ci ho pensato durante e mi sono anche convinto di una cosa, non so se ve lo devo dire. Allora ti dirò, perché il problema è che i complotti sono tanti, cioè nel senso, uno potrebbe dire che alcune cose, esatto, potrebbero essere non dico plausibili, però meno implausibili di altre. E il problema è che secondo me è una cosa all in, cioè nel senso, se credi a tutto, cioè di botto è terra piatta, 5G, New World Order, rettiliani, cioè, tutti in una volta, nel senso, non puoi scegliere le scie chimiche, sì, ma certo, giusto. Ma Bill Gates no, o è tutto o niente, per cui non sono ancora giunto alla conclusione che qualcosa potrebbe esserlo. Cioè tu dici che non ci sono sfumature, o c'è il pacchetto, no, esatto. È proprio una cosa, certo, è come un'operazione, secondo me ci sono delle cose che sono vere e delle cose no, però poi si fa un po' di confusione, perché anche tra le persone che cercano la verità è chiaro che c'è un po' di confusione, si confondono anche loro, no? Perché la lotta è un po' impari, no? Tra persone che hanno studiato tantissimo e persone che magari non hanno studiato, ma sono uguali, capiscono, qua sono intelligenti, che applicano un teorema fondamentale, secondo me, e qui Lobby ci può venire incontro, che è quello che secondo me la realtà è quello che io percepisco. Cioè se io vedo il cielo come delle lampadine appiccicate in una cupola, no? E dei pianeti che sono le cose piatte appiccicate lì, per me è così, cioè nel senso, chi come facciamo a dire veramente che l'universo è infinito, che noi giriamo intorno al sole o che la Terra non è piatta, per esempio? Cioè, questo è un dubbio legittimo, e io mi sono posto questa cosa qui. Secondo me in fondo un po' la Terra è piatta, perché è quello che io percepisco. Francesco, tu che ne pensi? Allora, recupero un pochino di robe che ha detto Alex. Ha detto involontariamente, nella sua ignoranza becera, ha detto sono cacchetto. Ha detto una cosa giusta, nel senso che faccio giusto i due minuti di serietà, ma neanche tanto seria. Meno male, queste teorie del complotto, sta roba qua, nessuno le ha cagate mai, scientificamente, dal punto di vista sociologico, antropologico, psicologico, fino all'11 settembre. Da là in poi, se c'è stato un pochino una deflagrazione, davvero sono diventate davvero epidemiche queste teorie. Quindi alcuni scienziati hanno detto, ma forse è una cosa interessante da studiare. Ed effettivamente gli ultimi dati vedono che se una persona crede alla teoria della terra piatta o di altre teorie, bene o male, è sempre un all-in. Cioè, o credi a un pacchetto, diciamo, di teorie complottiste, o non ne credi. Oppure, bene o male, in realtà tutti quanti noi siamo più o meno permeabili in alcune cose, perché ci sono delle teorie complottiste che alla fine si sono rivelate vere, tipo quelle dell'MK Ultra. Non so se l'avete mai sentito parlare. Quelle si diceva che la CIA negli anni 50, 60, 70 faceva degli esperimenti con droghe mentali, di ipnotismo, dice, ma che cazzo, sì, e poi sono state desegretate. Era tipo vero. Stranger Things. Era vero, sì, sì. Era vero. Quindi che alcune cose siano così, non siano così alla luce del sole, sì, effettivamente alcune cose così, però arrivare a credere sistematicamente ad alcune cose, nonostante i dati continui, logici, riportano che è il contrario, beh. Per quanto mi riguarda invece me, per quanto riguarda la teoria se credo terra piatta o non terra piatta, io credo in realtà che può darsi, mi sono fatto più che altro il dubbio, io che la terra sia tonda, cioè la terra sia un geoide, ne sono abbastanza certo, però può darsi anche che siamo frutto di una simulazione, che siamo stati creati su una terra che in realtà è piatta, capito? La terra vera è piatta, noi siamo una simulazione in un computer in questa terra creata che ci hanno fatto credere che... È lo sprite. No, ho capito il senso della cosa. Guarda, è importante questo, perché lui dice la terra è effettivamente piatta, ma noi non stiamo veramente camminando su quella terra, ma su una simulazione che è su un computer, che è su quella terra che è piatta, però ce l'hanno fatta. Sì, hanno detto visto che c'hanno dei complottisti dalla parte loro, dicono la terra è tonda, non è vero, c'è la curvatura, ha detto facciamo questa simulazione di terra tonda, di terra geoidale, vediamo che funziona. E effettivamente sta vedendo che in realtà va tutto male, quindi ha detto avete visto, ed è tutto. Dunque, è come in Matrix, quelli che dicono che la Terra è piatta in questa simulazione sono quelli che non si adattano e sono quei raccolti che vanno perduti. Esattamente, non ho capito un cazzo, però vanno perduti troppo tardi. Sì, troppo intanto tanto. Girasole dice che lei, ritornando alle cervella, c'ha una teoria sul cervello, soprattutto quello degli uomini. No, Girasole, cominciamo a fare questi discorsi beceri, perché poi dopo io tiro fuori Che sono tutte le parti brutte, uomini, donne, mask, cioè cos'è sta roba sessista? Che... Genere 1, genere 2. Perché nel beat della simulazione siamo un genere solo, esatto, e che è neutro, poi siamo uno o zero, questo è, però insomma sì. poi in realtà Vargon dice che vorrebbe una trasmissione condotta da me che piglio insomma quelli del Pit e tutti gli altri, ma in realtà il Pit sono palesemente dei cialtroni, cioè ne abbiamo già parlato in una puntata. Però io invece voglio un attimo l'osservazione acuta e intelligente di Alex e di Marco, no? Cioè voi percepite, cioè, la terra che ha preso i due canzoni, infatti, dopo che ha parlato l'unico che ha studiato qualcosa di genere, messo acuta e quell'altra con l'altro termine, un bello piccazzo, fammi parlare, non capisco che termini usi, cioè parla acuto. Sei acuto come il monte acuto, no? Porco cane. Se voi percepite la terra che si muove? Io, beh, è una domanda aperta. Mi è capitato in passato, ma lì è ubriaco, però no, erano le pareti che facevano boom boom boom boom boom. Quello era il terremoto. Ma non era. No, ma sì, il terremoto, esatto. Che ovviamente è scatenato dal satellite della NASA. È chiaro. È regolare. No, è pure io penso questo. Com'era? Perché... Come si chiamava il progetto? Quello che arco. Satelli terremoto. Chi è morto? Project. Chi è morto? Guardi, tu lo percepisci la terra che si muove? Assolutamente. Secondo me, no, in realtà penso che sia la terra che si muova sotto di me mentre io sto fermo. E quindi? Quindi se tu stai fermo, la madre terra neanche si muove. Però ti sposteresti comunque. No, vi muovete tutti quanti. Sulla terra, io e sto tu? Fermo. In questo momento come sei? Sto fermo, quindi siete tutti fermi. No, lo so, tu Francesco, secondo me tu la percepisci invece la terra. Io non la percepisco, quindi per me la terra è chiaramente, cioè oggettivamente una cosa ferma. Cioè, ma io al massimo ho sentito qualcosa muovere, ma al massimo nella mia pancia, in questo momento, e che fa anche rumore. Però è che è lo stesso metodo che provava prima Gualdi, poi, no? Che quello di Tesla, poi, che funziona, sembrerebbe che è funziona. Tipo un eco scandaglio anale. Una sonda fatto per te. Esatto, fatto per testare il riverbero delle vibrazioni quantiche delle pareti per sentire se poi genera un terremoto, perché è chiaro, no? Cioè non è possibile che il terremoto non lo puoi gestire, no? Cioè, ma è possibile nel 2020, sì. Secondo me sì. Nel 2020, esatto. Scusiamo il 2020, mo adesso non ce la fai a fare. Cloniamo le pecore e non ce la facciamo a gestire un terremoto. Cioè, ma dai, è possibile. È incredibile questa cosa. Però poi questa cosa, forse l'unica cosa che un po' mi rende, insomma, diciamo, scettico è questa cosa della cupola. Perché io sono abbastanza convinto che la Terra sia piatta. Cioè, nel senso che. Però. Che anche, ma soprattutto che l'universo sia finito, cioè nel senso che l'universo è dove noi veniamo noi, no? Noi vediamo il cielo azzurro, quindi c'è qualcosa che illumina la parete praticamente. La parete, certo. Ma poi dopo la parete cosa c'è? C'è il vicino. E niente, cioè, saranno altri mondi, altri universi. C'è il vicino di casa con un altro mondo. Può essere. Perché poi ci provano ogni tanto a lanciare i missili, no, contro la cupola, però rimbalzano e tornano indietro. Ma la cupola. Secondo me il termine stesso di cupola serve per dire che c'è una cupola che governa tutto quanto. È una metafora, sì. Ecco. Questo si innesta alla cosa che hai detto prima, che comunque il terrapiattismo è la madre di tutti i complotti, ergo se è vero sono veri anche tutti gli altri complotti. Sta roba mi sta facendo. Guarda, secondo me è un sillogismo inefficace, ma secondo me è giusto. No. Dato che la percezione è la cosa fondamentale, come dice Simone. Se è giusto il sillogismo, allora è giusto tutto quanto. Precezione. Che poi bisogna riconoscerlo. Noi umani normali, che non siamo parte della cupola del regno nascosto dei cieli, cioè stiamo ricreando questo concetto con gli studi virtuali che sono fatti in micro LED. Vi basti pensare a come hanno post-prodotto The Mandalorian, o ieri sera proprio stavo guardando Oblivion su Sky, che appunto utilizzano una cupola fatta di schermi per proiettare immagini che poi vengono catturate dalla camera. In questo caso la cupola è molto più grande, gli schermi sono molti di più, l'energia necessaria per farli funzionare è tanta, bisogna vedere che cosa c'è dietro la cupola per azionare questi schermi, però è ovviamente abbastanza chiaro che è così. Poi uno potrebbe dire, ma come faceva a esistere questa tecnologia qualche anno fa? Ma in realtà noi sappiamo che siamo nati, io nel 74, Pizzi nel 73, prima del 73 c'era già tutto, non si sa, potrebbe essere stato creato nel 72. Ah. Vabbè, ti tolgo sempre un anno perché ne dimostri almeno uno di meno. Soprattutto stasera, vero? Guardi, quanti ne dimostro stasera? Non so, io vedo uno schermo ipnotico davanti a me, per cui cioè, adesso, ma no, secondo me è un po' di più di un anno. No. Tagliere i capelli. Sì, dovete tagliarmi i capelli, che tra l'altro. Hai boccoli, che tra l'altro vanno per lato, cioè non sì. Vanno per basso. Io c'ho. Si estendono. Stai cominciando a ricordare Boss Hog, io ti dico solo questo. Insomma. Esatto. Metti il cappello. È bellissimo. Io non c'ho le. Io non mi ricordo l'ultima volta che sono entrato da un parrucchiere. No. Io non ho le doppie punte, io c'ho un'idra praticamente. Beh, no, tu sei a Arthur Trono. Oramai c'ho 4, 5, 6, 7 punte. E poi la bella cosa che ne stacchi una, te ne spuntano altre due. Praticamente un'idra al posto c'ho dei capelli. E dopo. Lo so, ce l'avevo pure io sto problema. Hydra, esatto. Ce l'avevo anche io sto problema quando ero giovane. Però poi dopo hai smesso di essere giovane. Ho smesso di essere giovane, hai detto. Questo è bello. È stata una scelta dura, ma insomma l'hai affrontata. No, ho smesso il giorno, adesso dopo dobbiamo aggiornare la chat, chiaramente. Adesso qualcuno aggiornerà la chat del giorno in cui abbiamo smesso di essere giovani, chiaramente. Abbiamo scelto di smettere di essere giovani. Fratelli, se tu... così a caso. Fratelli. Ma se tu la perché poi io adesso il dubbio che mi viene è un po'. Ma se poi noi un giorno riuscissimo a scaturire talmente tanta potenza a debugarla poi sta cupola, no? Perché dovremmo farlo? Esce tutta l'aria poi, si sgonfia. Che succede? Non lo so. Potrebbe essere che non c'è abbastanza energia nell'universo, nella Terra conosciuta per poterla bucare. Cioè il sistema è costruito in modo tale che la quantità di energia all'interno del sistema stesso non possa arrivare a superare il limite del contenimento del sistema. Però qui stiamo facendo delle congetture più filosofiche che pragmatiche. Mi piacciono queste cose filosofiche. Cioè, quindi ha un senso. Quindi tu dici praticamente che coloro che hanno costruito, quindi c'è un qualcuno che ha costruito sta roba, cioè ci deve essere. I costruttori. Magari noi per esempio siamo nella stanza dei costruttori su un tavolino, quindi vedi è piatto, no, la questione. e quindi si stanno lì e ci osservano, dicono sti coglioni, fanno la radio. Che cazzo glielo fa fare, cioè? Aspetta, PRG ci chiede in chat, ma la grande domanda è perché sbattersi per portare avanti questo grande inganno? No, dopo, ci arriviamo dopo, ci arriviamo, questo non ti fare domande adesso. Vaffanculo. Le domande vaffanculo. Vado in berserk come Brenda. Esatto, a che servono poi le domande, scusa? Sono sempre sbagliate. Perché poi io mi ricordo, io ho trovato l'illuminazione una volta su Facebook, ragazzi, lo so, è un po' una cosa che dice un po' una contraddizione. No, in realtà Facebook dà illuminazione a tanta gente, secondo me. Cioè, quindi, lo schermo del cellulare è illuminato, è bianco e ti aiuta a fare illuminazione dentro casa. Questo potrebbe anche essere, però lo so che è una contraddizione per uno che ha costruito insieme a voi Morti di Bestemmie. Allora, ho trovato l'illuminazione su Facebook quando ho letto di questa tizia che parlava del fratello che voleva fare il medico, chirurgo, che non aveva studiato, perché non, però la sua passione era talmente tanta, c'era la passione, e quindi praticamente a che serve, cioè, nel senso, avrebbe potuto esercitare, e però non glielo fanno fare, una cosa. E allora io lì mi sono reso conto, effettivamente, se ci pongono così tanti limiti, allora c'è qualcosa che non va in questo sistema, no? Alex. Qualcuno gli rispose tipo: io ho una passione insana per la figa, quindi sono un ginecologo. Che potrebbe, beh, potrebbe essere. Beh, potremmo chiederlo al padre di Puccio, per esempio. Se è la passione che lo secondo reso me ginecologo. Questa cosa non è vera, perché secondo me è una di quelle cose che è come se ti piace tanto il cinema, poi inizi a farlo e ti accorgi di tutta la finzione che c'è dietro. E lo stesso è quello: se ti piace tanto la figa, forse è meglio non studiarla troppo, perché altrimenti la studi e vedi, la vedi poi come una cosa, un meccanismo complesso fatto di tessuti, fatto di cellule, fatto di cose, e non, cioè, che vedi, pare, vedi, guarda, questo sistema, cazzo, ma, basta, perdi, basta. Ma perdi l'anima. Basta, sto diventando gay in questo momento. Ma scusa, questa cosa del ginecologo ti è venuta in mente a te? No, perché è la stessa cosa che ha scritto Pierg in chat. No, è perché sì, era una risposta proprio che fu data a quella chat, ricordo la risposta, forse in commenti immemorabili. Allora, Puccio dice che fare il ginecologo ti passa. Vabbè, sì, immagino. Però la passione ti fa fare quel lavoro e poi ti passa. E poi immagino che te passa. Sì, sì, sì, è un po' passa. Come io mi domando sempre: signore, c'hai 60 anni, che cazzo stai a fare qua? A casa, che brutta cosa. Che sentivo... mi hai ricordato il leccatore di citofoni. Anche vabbè, sono cose brutte che... no, scusa, ci gira solo. Quando finisce la figa, poi dopo non sai cosa fare, passa il citofono. Esatto. Ovviamente. Interessante, è la seconda cosa che pensi. Dice gira solo in chat. C'ha ragione, c'ha ragione. Torniamo. D'altronde è colpa tua se ci ascolti. Cioè, no, cioè... non era colpa nostra. Cioè, noi parliamo, cioè, ci ascolti, non è colpa nostra. No, comunque torniamo al tema importante. Io lo chiedo a Francesco: secondo te, no? Ammettendo che questa terra è piatta, e secondo me lo è, no? Ma se tu arrivi al bordo del... che succede? Io ho paura un po'. Al bordo, che ovviamente diventa un campo di forza di bestemmie, il famoso, sì, bordo Dio. Il bordo, scusate, ma com'è? Cioè, il bordo è piatto, ma è quadrato? No, allora, no, secondo le teorie ufficiali, quelle proprio credibili, c'è un enorme muro di ghiaccio, un po' come... Sì, ma questo confine di ghiaccio, no? Intorno alla parte vivibile, diciamo così, è tondo, è quadrato, è triangolare... No, che figura ha? Cioè, in che senso? Non ho capito la domanda. La parte è circondata dal ghiaccio, la parte interna circondata dal ghiaccio, che forma ha? Cioè, allora, guardarsi dall'alto, ma se potessi andare in uno spazio che non c'è... La terra è circondata da ghiacci, non il bordo... Lo so, ma che forma ha? Cioè, la parte, se noi andassimo sopra in uno spazio che non c'è, ovviamente, è come la crosta della pizza, praticamente. Quindi è tondo. E certo. Oh, perfetto. Quindi è un piatto, la terra è piatta. È piatta, è quello che ti sto dicendo. Stiamo parlando di questo all'inizio della trasmissione. È piatta perché è la forma del piatto. Esatto. È doppiamente piatta. Però ci sono questi bordi di ghiaccio, che tra l'altro ci sono la crosta. Ci sono i militari. La crosta. Ricorda sempre che questa è una cosa importante, perché è chiaro, ma... sul pianeta Terra siamo 7 miliardi e 4 miliardi e 5 sono militari che stanno ma poi io mi pongo questo problema, ma oggi ci sono i militari perché c'è il complotto, c'è l'accordo Antartico, ma una volta che facevi? Cioè, nel Medioevo c'erano pure. Nel Medioevo non ti ponevi il problema. Non ci arrivavano, dici? No, anche perché tutti sapevano che era piatta la Terra, per cui qual era il problema? Cioè, tutti quanti pensavano fosse piatta in quel periodo. Quindi non c'era nessun complotto. Il complotto è venuto dopo, no? Quando Cristoforo Colombo è andato in India e poi si è ritrovato in America. Però vedi, lì c'era qualcosa che non andava. Perché non è arrivato in India, è in America. No. Effettivamente non ha fatto il giro. Io pensavo di andare in India perché cioè, mi faccio vedere io che è tonda, vado in India. Invece andate in America perché è piatta la Terra. Se fosse stata tonda sarebbe finito in India. Esatto. Capito? È questo la... Oppure semplicemente era uno spastico, cioè, nel senso, non era buono a navigare. Però gli davano fiducia. Però da quanto so io, in realtà, cioè, di tutti sta gente che crede nella Terra piatta, tra cui forse noi, non lo so. Io ripeto, io credo nella Terra piatta. Io oramai ci credo. No, ma anch'io ci credo, abbastanza. Ma credo che la Terra, ho detto, questa simulazione è tonda, però è quella vera è piatta. In realtà se litigano anche tra di loro per com'è sta Terra piatta, cioè chi dice che c'è il bordo di ghiaccio, eccetera, eccetera. C'è chi dice che c'è l'effetto Pac-Man. Che tu vai al bordo e compari dall'altra parte. Ah, vedi? Sì. Però è più confortante l'effetto Pac-Man. Sì. Se ci pensi. Sì, è più confortante. Però io, insomma, fino a un certo punto, perché Pac-Man, cioè, quando sparisce da un lato e ricompare dall'altro, c'è un piccolo momento in cui non c'è più. Vabbè, tu non te ne accorgi però quando non ci sei più. Pochino, cioè quella frazione di secondo qui. Come il wormhole, tu, cioè quando passi c'è il momento del passaggio. Per un attimo non ci sei. Quella è la cosa terribile. E quindi quando tu rientri potresti non essere tu. Esatto. Potresti essere una replica del destino. Vedi, come sta la fine. Come i teletrasporti. Non c'è niente da fare, dai, su, ragazzi. C'è qualcosa che non funziona. Perché ci sono troppe domande. Qualcosa che non ci vogliono dire. Esatto. La cosa interessante è che dal punto di vista euclideo, uno spiegherebbe tranquillamente il principio di Pac-Man con la Terra non è piatta, ma è sferica. E sarebbe già praticamente o geoide o qualcosa pallico, nel senso qualcosa di volumetrico. Ma invece se lo vuoi fare pallico, dici. Esatto, sì. Cioè nel senso che in realtà la Terra è a forma e misura di Pac-Man, così come noi siamo a forma e misura di Dio, praticamente. Quindi Pac-Man è il Dio della Terra, è colui che ha costruito i pianeti, le cose. Me la stai vendendo molto bene, devo dire la verità. In qualche maniera. C'è giustamente Valchion che ci dice: ma se ci sono così tanti militari che servono per il bordo, perché hanno levato la leva ai 18 anni? Cioè io a 18 anni a me non me l'hanno levata la leva, cioè nel senso me l'hanno lasciata lì. Poi dopo non so tanti se hanno gli hanno levato delle rotelle, penso, però però va bene. No, infatti in effetti quell'anno io non lo ricordo tanto bene. Secondo me sono andato a servire nel patto interatlantico a difendere il ghiaccio. No, tu stavi a giocare a Prince of Persia sul computer del comandante, diciamo. Sì, della contabilità. Quindi, signor comandante, come si chiamava il comandante? Si chiamava Lelli. Lelli, signor Lelli comandante. Ten Col Lelli, sì. Quindi era pure, insomma, tenente imperio. Lo chiamavano Johnny Walker. Pure a lui, ho capito. Ah, vabbè, tu invece Alex te la ricordi, ma tu l'hai fatto il militare, Alex? Sai che lo sai? Vuoi ridere? Mi hanno riformato per insufficienza toracica. Ah già, me l'avevi detto. Sì, è vero, è vero. Io invece penso che ero andato lì con il foglio cioè nel senso pronto per essere riformato, e c'era uno che si era impuntato che doveva trovarmi qualcosa da far fare. Ho detto no, ti trovo qualcosa da fare, tu non esci di qui. Vabbè, ma perché, scusi, perché tutta questa cattiveria? E vabbè, sapevo, la mette nel reparto radiotelegrafisti. Ho detto radioattivo, le trovo, le faccio fare qualche cosa qui dentro le scoglie, venga. Francesco invece pensa che non l'ha fatto il militare. No, anche a me non me l'hanno fatta per insufficienza mentale, quindi mentale quella è più importante secondo me. Eppure pensate, ma Francesco tu quanti anni hai? Troppi, si potrebbe dire troppi. Hai perso anche tu la giovinezza o te la senti ancora? Ragazzi, sono indeciso se fare uno starnuto o farlo abortire, quindi ecco, chiamatemi, ditemi che non sono ditemi che non sono etico, sono immorale, e l'ho fatto abortire, ragazzi, l'ho fatto abortire, mi spiace. No, una brutta cosa, ci hanno fatto il referendum su sta roba. Guarda che puoi sempre lasciarlo a persone che ne hanno bisogno, cioè non lascilo, puoi anche non riconoscerlo. Allora, io vi dico quanti anni io ho. Gli anni che ho. Non sapevo che l'avresti detto. Vabbè, Boris colpisce. Il grande ritorno di Boris che colpisce. Andiamo avanti. Ritmo. No, io vorrei parlare di Francesco. Di sicuro non ci dice quanti anni ha. Non ricordiamo più la domanda, ma so che non c'è risposta. Infatti, sì, 42, nel dubbio 42. 42, quindi tu sei il senso della vita. No, così come Pac-Man è il creatore dei mondi. No, quella è la domanda, è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. Ma noi la domanda non la sappiamo. È la Terra che è un mega computer che la sta elaborando. Poi arrivano i Vogon e la distruggono un secondo prima. Però vabbè, è un'altra storia quella. Eh sì, ma io vorrei parlare di questa questione perché c'è una cosa tra tutte queste complottismi, insomma, diciamo, che secondo me è stato il primo che mi ha convinto veramente, cioè proprio la cosa che secondo me mi ha un po' convertito, diciamo, da questo punto di vista, perché è comunque il più credibile, anche perché si svolge in un periodo in cui c'era la guerra fredda, c'era una competizione politica a livello globale, insomma, no? Quindi c'è sta cosa dell'uomo che è andato sulla Luna, no? Gualdi, se l'uomo è veramente andato sulla Luna, no? In un momento in cui dovevano dimostrare che loro erano più forti dei sovietici, no? Ma perché poi non c'è più di andato? Perché non c'è mai andato, è tutto falso, Pizzi, è tutto falso, non c'è mai andato sulla Luna, perché la Luna è grande 20 metri quadri. Esatto, bravo, vedi che allora è così, cioè... È un disco appeso, piatto, appeso, pure quello. Bravo, che sta tra l'altro a 5.000 metri d'altezza, l'hanno stato dimostrata questa cosa. Forse un po' di meno. Col sole pure, no? Che fanno avanti e indietro. Il sole un po' di più. Poi fanno avanti e indietro. No, scusa, quella dell'altezza non la devi spiegare. 5 metri? 5.000 metri. Ah, 5 chilometri. Sì. Ah. No, 5.000 metri. Cioè, bisogna essere precisi. Perché loro lo dicono in miglia, noi abbiamo arrotondato in 5.000 metri. Com'è? Vabbè, sì, 5.000 miglia, vabbè, okay. Cambia poco. Ma se ci sono delle montagne più alte di 5.000 metri, ci sbatte contro. Ok, va bene. Ma in realtà non esistono montagne più alte, è tutta una montatura, chiaramente. Cioè, l'Himalaya in realtà è alta 4.000 metri. Soltanto che è moltiplicato per... Cioè, tu mentre lo sali due volte. Sono queste due lampadine, fondamentalmente. Una è il sole, che è molto luminosa, e una è la luna, che è meno luminosa, che in realtà fanno avanti e indietro, e se fanno la spola praticamente, e tu dici quando tramonta. In realtà il sole non tramonta realmente, ma il sole va talmente lontano che a un certo punto tu non lo vedi più. No? È la luna che si spegne quando c'è quella che loro ci vogliono far credere che è l'eclissi. In realtà non esiste un'eclissi, è la luna che si spegne. Però io ho già una domanda. Che tipo di lampadina è? Cioè un LED? È una incandescenza? No, incandescente perché fa caldo. Incandescenza. Ah, ok. Sì. E poi è comunque la luce gialla. Invece la luna è LED. È a risparmio energetico. La luna può essere più LED perché è fioca, capito? Però è comunque autoilluminata, quindi... Non è retroilluminata? Certo, è retroilluminata, è illuminata da dentro, quello che tu vedi è la superficie che è illuminata da dentro. Quindi praticamente c'è un grosso foglio di carta che dà quell'impressione di cratere, si accende. Bravo. Ah, bene, no, bisogna capire, certo, questa è scienza pura, ma, scienza brutta. Ma spiegatemi una cosa, ma tipo negli anni 70-80, che io era ancora, tipo, avevo meno 10, meno 20 anni, ma... visto che la tecnologia lo permetteva, era tipo la luna era tipo a fosfori verdi, come era la luna? O sempre uguale? Ma secondo me era il neon. Neon, sì, in quell'epoca era il neon, c'era il neon. Gli anni 80 era l'epoca del neon, giusto Ale? Sì, è fluorescenza, assolutamente dimostrabile. Dimostrato che avrebbero potuto farla anche più sghigia volendo. Però poi gli sembrava troppo... Capito? Cioè, ma poi la tecnologia ovviamente avanza. Cioè... Sì, però considera che il neon, quello tutto scenoso, tipo l'insegna di Porky's, è venuto un po' dopo. La luna... Un po' prima. Comunque la tecnologia, Alex, avanza. Inizio anni 70. La tecnologia avanza, no? Perché se tu ci fai caso, adesso sono sicuro che è LED, perché ripensandoci, cioè, ma c'è presente tutte le notizie? La superluna, la luna rossa, la luna di tutti i colori, perché sono i LED? No, attenzione, zio Mischi, ecco, vedete, no, perché poi non c'è un cazzo da fare. Alla fine, raga, alla fine è così. Cioè, io più ne parlo e cercando poi di convincere me stesso che non è vero, e più poi io mi rendo conto che è vero, non c'è niente da fare. Infatti, zio Mischi mi dice che ci dice, evidentemente lui lo sa, perché secondo me lui... Tu lo sai. Sta lì, zitto, chedo, fai cazzi sua, no? Però secondo me lui lo sa che l'eclissi è quando devono cambiare la lampadina dalla luna. Regà, si trova, senti. Si trova, mi sta convincendo. Però dici che però perché si illumina a metà? Perché so più delle, secondo me sono più lampadine. Ma quello pure è un effetto scenico, penso, no? Cioè, nel senso, sì, ma è come la retroilluminazione dei pannelli LED dei televisori, cioè spengono alcune lampadine che raggruppano poi una serie di pixel. In realtà, in termini tecnici, sarebbe un translite, cioè praticamente un foglio di acetato su cui è stampata l'immagine dei mari, del mar della tranquillità, tutti i crateri, eccetera, eccetera, eccetera. E poi adesso qui non lo vediamo perché siamo lontani, però se vai vicino vedresti che appunto accendono alcune luci in corrispondenza. C'è anche scritto Medicina, se tu ti avvicini abbastanza su un angoletto, se non sbaglio. E qui sì, ci sta. Sì, però vabbè, a parte quello che giustamente diceva Argion, vabbè, questa è una cosa chiara, si sa da sempre, insomma, che le montagne non esistono, in realtà sono enormi tronchi di albero che vengono tagliati, però questo si sa che è così, anche se non ho capito perché, però non fa niente. E giustamente c'è Girasole che ci chiede, e questa è una risposta a quale, Alex, vorrei che tu mi aiutassi a rispondere, che sei quello un po' più tecnico, secondo me, cioè quando l'hanno realizzata la Luna? Cioè, secondo te? E come ho scritto in chat, secondo me è verso la fine degli anni 60. Qua? Ho questa mia sensazione. E quelli prima non ci sono mai stati. Ma secondo me non si sa cosa c'è stato prima. Esatto. C'è stato un mondo prima. Un mondo, per quanto mi riguarda, potrebbe essere stato creato il 25 giugno 1974. Esatto. Io non c'ero. Esatto. Allora, cazzo me ne. Secondo me è stato creato più o meno con la creazione del cinema. Più o meno in quegli anni. Beh, allora stiamo parlando della fine dell'Ottocento. Sì. Quindi, fine dell'Ottocento. Quindi diciamo che il mondo ha un secolo e mezzo. Sì, sì. Sì, vabbè. Tiè, così, proprio 150 anche, anni. Anche perché che cosa farsi negli altri 2000 anni? Però tu immagina tutte quelle persone che sono state messe lì dal sistema a inventasse millenni di storia per giustificare. Sono posti di lavoro, pensa se lo facessero oggi. Facciamo tutto da capo, ma sai quanta gente. Beh, io l'avrei fatto come lavoro, tu l'avresti fatto, Alex. Io ho scritto tante di quelle cazzate che però non mi sa neanche. Sì, dipende, sai, un conto è occuparsi della direzione artistica, ma sì, disegniamo questa cosa. Un conto è accendersi queste 700.000 lampadine, interruttore per interruttore, sì. Quello magari è un lavoro un po' di merda. No, quello è triste, dai, cioè. Cosa che può fare oggi con un computer, tra l'altro, quindi cioè, devi soltanto programmarlo, cioè una tua palle, insomma. Sì, ma però secondo me certe cose è giusto che rimangano analogiche, fatte dall'uomo, così c'è la passione. Così c'è quell'imperfezione che rende il tutto ancora più vero. Intanto in chat è partita la discussione tecnica sulla Luna e tra l'altro Davide ha scritto una cosa che se la vede Alex, cioè penso che... L'ho vista, gli ho anche bestemmiato. Ho visto una doppia mucca che non dovrebbe starci, però va bene. E roba insomma tra di noi. E il sole è un'incandescenza. Però anche lì, quindi, le eclissi ne approfittano. Però lì è un po' più complicato. Cioè, allora, quello lo... te devi sbrigare, cazzo. Cioè, no, ma quello poi è un lavoro, non solo te devi sbrigare, però devi anche aspettare un attimo che si raffredda. Perché, cioè, non è che puoi andare lì con le mani a svitare. No, ma c'hanno tutti ed amianto, capito? Cioè. Ah, capito. Lì sfidano, tanto l'amianto in realtà non fa male. È che lo usano, lo stanno accumulando per farci le tute. Per andare a svitare i lampadini. Ho capito, ho capito. Ma perché non li vediamo? Francesco. Perché ci abbaglia, luce ci abbaglia. No, capito, però la luna di notte. Questo è un effetto psicologico. Noi non vediamo le cose che non vogliamo vedere, giusto, Lobby? È vero, sicuramente influisce il non voler vedere una cosa, il non riuscire ad accettare una cosa. Quindi, tipo. Questo è un po' come uno Jean-Luc Picard nel pieno della sua grandezza che diceva: io vedo quattro luci. No, io stavo dicendo una cosa più terrena, tipo non vedere il gas acceso quando te ne vai da un'altra parte. Spero che abbia sentito nell'altra stanza. Scusate se lo uso anche per metodi usi personali questo podcast. Quindi sta andando a fuoco la cucina, insomma, abbiamo capito. Ah, giustamente il girasole dice che da dietro non scotta la luce del sole, quindi loro partono da dietro, perché chiaramente ci sarà una stanza tecnica. C'è un dietro, dice. Esatto. Quindi, però sta ragazza mi fa paura. Mi sorprende. Mi fa anche un po' paura, ma va bene. Però da dietro non scotta. Adesso devo capire una cosa sul dietro. Se no, il è una sole frase che utilizzerò in futuro con delle donne. Da dietro non scotta. È una bellissima frase che me la rivenderò. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. stavo per dire una cosa scientifica, ma è meglio che me ne stia zitto. È giusto così. No, dilla, dilla così va bene. E dai, vuoi no. Tuo ingoglio, dai. No, su, no, no, adesso allora, la devi dire per forza. Ok, allora ipotizziamo che il sole sia piatto, ok? Okay? Va bene. Se è, la, da, è sopra di me il sole, allora lo vedo come un cerchio. Se però il sole è lontano, dovrei vederlo come un ovale. Perché non lo vedo come un ovale? Aspetta, io mi sono perso. Guardi, riassumi. Allora, lui dice, se è piatto, ok, e se sopra di me lo vedo come questo, no? Sì, sì, sì, è ma vero, se è vero. Se sposta da un lato dovrebbe è accorciare. È una criticità nota questa cosa, ma secondo me... Ci stanno lavorando. Ci sta... Quindi troveranno una soluzione anche per questo. Ma secondo me poi in realtà, e questo è un po' l'errore della tesi, è che in realtà il Sole e la Luna non sono realmente piatte, ma sono delle semisfere al contrario, cioè sono delle semicupole piccole al contrario. Quindi tu comunque più o meno, diciamo, le vedi quasi sempre sferiche, no? Cioè, anche se ci può essere questo effetto schiacciaticcio, insomma, del sole, che in effetti è un po' una contraddizione. E questo fa un po' ballare un po' la tesi, in effetti, hai ragione. Non so, forse potrebbe essere un effetto ottico che magari il nostro cervello corregge inconsapevolmente perché ha bisogno di una coerenza rotonda, diciamo, che ne so. Francesco, me l'hai venduto un'altra volta. Francesco, dici la tua. È proprio noi, il nostro cervello ha la perenne ricerca di coerenze, di chiusure, di rotondità. Sì, la rotondità è una, diciamo, una forma molto biologica, quindi più assimilabile a quello che si può trovare in natura, diciamo. Quindi che poi non dimentichiamo del fatto che tende a correggere delle robe che non ci sono. Per esempio, voi tutti, soprattutto tu Simone, che ne sai di sistema ottico, diciamo, sai che dove passa il nervo ottico lì non ci sono recettori né con i bastoncelli, quindi c'è un buco in cui non percepirebbe niente. Però il nostro cervello corregge e non ce lo fa percepire quel buco, praticamente lo riempie. Quindi il nostro cervello, ricordiamo che è un riempie, che quindi praticamente la storia dell'uomo è quella di riempire buchi. Riempire buchi, sì. Si riassume in tutto questo. Ogni volta che andiamo su questo andazzo, andiamo avanti. E il buco che va sempre riempito. E comunque, cosa, secondo me, sono più lampadine nel sole. E questo spiegherebbe le macchie solari. In realtà si fulminano delle lampadine. Sì, certo. La macchia solare. Sì. Perché scusami, è anche più senso. Cioè, tu crei un sistema. Così che usi una singola lampadina che se si fulmina sei fottuto. È un gran casino. Fai un po' di. Infatti. Esatto, invece così la gestisci. Puoi fare le cose un po' di più, un po' di meno. C'è il dimmer, cioè c'è un dimmerone che è un tipo a 6-7 metri di diametro dietro il sole che si mette lì e si regola. Comunque salutiamo Daniele Goretti che in chat ci dice che gli dispiace ma ci deve lasciare perché deve andare a vedere il lancio di SpaceX. Ora Daniele, se te vuoi far prendere per culo così dal sistema, io dai. Mi sembra proprio, guarda, è tutto finto. Daniele, cosa vai a vedere? Svegliate però, apri gli occhi. Ponte esclamativo 1. Noi ci proviamo, ragazzi, però poi dopo se non recepite, chiaro, insomma, diventa un po' complicato. Allora dovete morire bestemmie. Anche se poi io sono convinto che la scienza, secondo me, non può e non deve spiegare tutto. Per esempio, il principio fisico che permette al Sole e alla Luna di essere sospesi nella cupola e fa avanti e indietro. Non è un capo? Però secondo me non andrebbe svelata questa cosa. Cioè, nel senso, è bello anche un po' di magia nelle cose. Perché la scienza deve spiegare tutto? Cioè, perché dobbiamo andare lì a guardare ogni minimo coso del perché, del per come, a darci delle domande? A volte è bello anche rimanere solo con la domanda, no? Cioè, nel senso, chissà come funziona. Infatti è giusto pensare, perché studiare la Luna quando abbiamo un sacco di problemi? Sono ben altri problemi sulla Terra. Esatto. Tipo, che ne so, da quando c'è l'euro le cose costano il doppio. Cioè. Esatto. Non lo so, Francia, a te tu che dici? Io dico che secondo me l'hanno inventato così. Allora, al centro della Terra, secondo le teorie, quindi c'è il Polo Nord, quindi c'è altro ghiaccio insormontabile, eccetera, eccetera. Al centro qua c'è un palo enorme, gigantesco, altissimo, che però ricoperto di pannelli riflettenti, da cui proprio poi, da questo palo, poi ci sono due diramazioni proprio parallele, tipo che prendono bene o male parte del diametro del piattume. E a cui sono appese da una parte il Sole, da una parte la Luna, e queste qua girano, girano. C'è un meccanismo che gira. Tipo i calci in culo, praticamente. È un enorme, questo volevo dire, un enorme calcio in culo. Oh, al centro del al centro della Terra. E quindi anche al centro del mondo non ci puoi andare, ci sono i militari che ti impediscono di andarci. Anche lì. E se non sbaglio è il deserto del Sahara. No, è il Polo Nord. Polo Nord. Il centro. Quindi anche il Polo Nord è il centro del mondo, c'è ragione, è vero. Vedi. La geografia è una cosa importante. Vedevo che Girasole si stava lamentando dei buchi, non so che. Allora, Davide Gatti dice: le stelle secondo me sono come pixel bruciate dei monitor. Sapete che rimangono i pixel bruciati? Al contrario, si bruciano la... al contrario, perché sono fatti di LED. Ok, va bene, sì. No, io tanto sto cercando le altre cose che mi convincono di questa teoria. Voi intanto chiacchierate un attimo. Chiacchieriamo un attimo, ragazzi. Parliamo dei cazzi nostri. No, vabbè, secondo me questa teoria del palo non mi convince. Secondo me è più una corda, cioè sta appesa e poi scorre. Quindi c'è un binario sopra in alto. C'è un grosso binario. Sì, sulla cupola. C'è la cupola. C'è la cupola. Però dovremmo vedere poi dalla cupola anche. No, la luce è forte. No, nel cinema. No, prima, cazzo, prima del computer. Non vedi un enorme palo al centro del mondo, vedi il cavo della cupola. Cioè, insomma. Non sei credibile da questo punto. No, il palo c'è dei pannelli riflettenti tutti intorno che tipo, e tipo anche il cavo è fatto di materiale. È ricoperto di materiale stealth, tipo di una tuta stealth. Ok. Hai presente al cinema quando invece di fare le cose in computer grafica mettevano i modellini sospesi col nylon? Non è quella roba lì, se... Okay. Anche perché se non vuoi vederle le cose non le vedi. Ricordati questa grande verità. Però pure lì c'è bisogno di una grossa manutenzione, se ci pensi. Cioè, nel senso, e se stacca? Cioè, col passare del tempo, no? Si logorano un po' le cose. Infatti è andata male 65 milioni di fa. Si è staccato il sole. Hanno detto: cazzo, è arrivato il meteorite. Invece no, ecco, quindi... sì. Okay, no, okay, perché i meteoriti non ne possono. Scusate, entrare, non era lui. Infatti, no, aspetta, giusto. Sì, ma non c'era 150. So che stai per dirlo. Albano ha detto che è stato l'uomo che ha distrutto il dinosauro. E quindi secondo... è vero. E quindi secondo me è vero. Albano sa. Però. Non ha detto che è stato un errore. Secondo me è stato un errore la caduta del sole. L'hanno fatto apposta. No, non hanno fatto apposta. Vabbè, però lui non ha specificato. Cioè, ha detto, cioè, il fatto che sia un errore non leva la colpa. Cioè, nel senso, è comunque... Perché noi pensiamo che sia successo 65 milioni di anni fa. In realtà è successo 200 anni fa, più o meno. Tempo pure di ricostruire il sole. No, ma io volevo sapere da Marco. A te ti convince invece sta teoria che il sole non tramonta, ma è solo un effetto ottico e che diventando talmente lontano tu non lo vedi più? Ma io avevo un'altra teoria che prevede, sì, la Terra è cupola, è piatta, ma sotto non c'è nulla, quindi gira, capito? C'è una specie di cupola, in realtà c'è un globo, ma intorno alla Terra è piatta. Non è una cupola, ma noi siamo dentro una sfera. Dentro una sfera, però è piatta. Però è piatta, perché bisogna trovare un po' una quadra alla cosa, anzi una domanda. Una globa. È perfettamente piatta o un po' incurvata come il campo di Olli e Benji? Quello perché questo spiegherebbe un sacco di cose. Spiegherebbe Olli e Benji, per esempio. Cioè, sì, proprio perché. Allora, Olli e Benji è chiaramente un messaggio sublime, un messaggio massonico. Massonico è pieno di riferimenti massonici. Che quel cartone animato. So, assolutamente. Se uno un pochettino sveglio capisce, vede che c'è una vagonata di messaggi nascosti neanche tanto lontanamente in Olli e Benji. Infatti. No. Scusa, no, perché sto cercando di interpretare i messaggi massonici di Olli e Benji mentre che voi parlate. Volevo cercare una cosa, un secondo, andatemi un attimo di tempo. Guardi, parla di teorie ottiche che smentiscono. No, perché dobbiamo buttare queste cose tecniche? Io non so niente da smentire. Secondo me è un globo, tutto qui. Adesso poi c'è la Terra che è collegata coi piloni di ghiaccio. Ma secondo te, Gualdi, parliamo anche delle cose un po' astruse. Cioè, secondo te, no? Astruse, innanzitutto ci sarai due o tre quarti della palazzina, appunto. Ok. Però dico, cioè, se la Terra fosse tonda, ma poi l'acqua non scivola dai lati, perché questo è... Infatti, cioè, non dai lati, cioè, andrebbe ovunque, no? Cioè, perché poi la Terra non c'è un destra, sinistra, cioè, da tutte le parti l'acqua. Cioè, invece, se è piatta la cosa, col ghiaccio intorno, rimane lì. Non l'ho capita. Se è tondo, presuppone la presenza di un globo intorno, no? Cioè ci dovrebbe essere qualcosa di più grosso intorno, quindi schizzerebbe da tutte le parti l'acqua. Se c'è un giù e un su. Invece no. È tipo quando sciacqui tipo una mela, una pera, qualcosa sotto, esatto, sotto il lavello, scorre, l'acqua scorre, parti, no? Cioè al massimo dovrebbe stare solo sopra buchi, l'acqua, ma poi esce sopra. Fuori. Sì, oppure ci fai tipo un cornicione in modo che si mantiene, però Invece piatto c'ha senso. Dovrebbe essere tutto deserto, ghiaccio, giù, tutto, però vabbè. Esatto. Poi certo, io c'ho la domanda, ma dopo la cupola cosa c'è? È quello il problema. Ecco perché ogni tanto proviamo a sparare un missile per cercare di bucarla, perché vogliamo vedere che ci sta dietro. Oltre il ghiaccio cosa c'è? Però tu se ci pensi, no, oltre il ghiaccio è un discorso. Cioè non vai oltre la cupola. Hai detto te, cioè noi siamo dentro la sfera, no? Proprio poi finirà il ghiaccio, no? Eh sì, però secondo me si cascate sotto, perché c'è... Quindi c'è un sotto. C'è un sotto, sì, okay. È chiaro, cioè, se c'è un sotto, se ne stiamo... il sottomondo. Se noi stiamo in piedi c'è un sotto. Ecco, secondo me dall'altra parte c'è lo stesso mondo nostro, solo che è diverso. Come la vedete questa cosa? Con l'Australia. Con l'Australia. Oppure sta di qua. Che ne so io, adesso non stai a fare delle domande troppo tecniche. L'Australia poi tra l'altro non esiste. Cioè, questo non è stato... lo so, qualcuno ha detto di sì invece. No, c'è della gente che dice che l'Australia è il Molise, quindi non esiste. Potrebbe. Dai canguri? Bene, ho linkato una cosa nella chat di... non so. Ho paura, però. Io non ho niente. Non lo so, devo dire la verità, sono su coso, su Skype, quindi tu non puoi vedere niente. Se vuoi te lo metto anche su Telegram, così almeno sei. Ma mettilo su Telegram. Su Telegram, va bene, ok. Allora ti ecco, l'ho messo su Telegram. Non so, ovviamente non l'ho letto, devo dire la verità, però... Bah, sì, ma questa è una cialtrona che dice sta roba, cioè Alessia è una cialtrona, dice che Pollen era tossica, lo sanno tutti, Ollie e Benji una coppia di dopati, non è vero, George un po' leggera e Lady Oscar quantomeno sessualmente confusa, o no? E allora? Cioè, ci sta... Non ci vedo niente di male. Sì, beh, diciamo che la peggio di tutti era Giorgi, cioè, comunque c'è sempre stato Che in realtà noi si scrive a G.Orgi. Si scrive a ecco, vedi, e anche queste sono altre, vedi, perché poi anche lì c'è sempre il submessaggio, diciamo così, no? Quindi è un po'. Vabbè, ragazzi, però alla fine di tutta sta fiera, no? Perché poi dopo a un certo punto, quindi, ma ci sono delle delle assurdità che possano più o meno, insomma, guardi, tu hai fatto una ricerca su fenomeni fisici relativi a... non hai fatto un cazzo, insomma. No, perché devo fare delle ricerche quando c'è Facebook? Allora, se tu cerchi una cosa vado su Facebook e te la trovo. Ah, vabbè, allora vai su Facebook. Vado su Facebook. Su Facebook. Sto andando, si riesco a capire. Che d'altronde è il posto dove io mi sono illuminato, insomma. Cioè. Ma questo Facebook è la scienza, praticamente. Io faccio su cerche, che cosa vuoi sapere? Dimmi. No, non lo so, però se ti preparavi prima della trasmissione, no, forse... facciamolo al volo perché è bello. Non lo so, non mi viene in mente adesso la gravità nella terra piatta, insomma. Allora, gravità, terra piatta. Sono guardo su Google, però mi sa che Google è troppo massonico, quindi non lo so. Intanto vedo che in chat continuano a fare conversazione. Alex, aggiornaci. Allora, in chat stanno arrivando livelli di follia in cui Davide Gatti dice: io ho la soluzione a tutto, in realtà ovviamente tutto quello che sta in cielo e tutto l'universo non è altro che una simulazione di un gioco a casa di un bambino, il quale a sua volta vive in un mondo che è la simulazione di un universo di un altro bambino e così all'infinito. È quello che sto dicendo io, Alex. Poi il sole... sì, esatto. Sì, sì. Comunque, alla ricerca su Facebook gravità terra piatta esce Shuren. Quindi, ma Shuren, il nostro Shuren. Michele, sì, Michele Shuren. Io, okay. non so perché, come sia collegato in tutto questo, non so perché vada su di lui, ma ho paura. Sostenitori italiani della terra piatta, c'è anche questo sito. Vabbè. No, okay. Sentite, ragazzi, io però a un certo punto me la so fatta la domanda, perché poi è la domanda che ci fanno tutti a noi. Chi ce la fa fare? No, no, no, a noi terapiattisti ci domandano sempre una cosa importante. E che poi in effetti è, secondo me, il crocevia di tutto quanto. Ma tutti ci dicono: ma perché? Ecco perché ce lo domandavano prima in chat, no? Cioè, nel senso, perché architettare tutta questa cosa? Perché? Perché? Perché? Deve essere successo qualche cosa. Ma soprattutto perché. Allora, Perché è importante? Perché in realtà per me, io ritorno a dire quello che ho detto prima, cioè non è che bisogna dare un perché a tutto, cioè a volte le cose sono per quello che sembrano ed è tutto più semplice così, cioè dobbiamo andare a distruggere le montagne, fare gli acceleratori protonici, le bombe nucleari, costruire missili, cose, invece cioè, basta, è così, la mattina tu ti svegli, il sole ti riscalda, gli uccelletti fanno chip chip e noi riempiamo buchi, cioè questa è un po' la vita è questo, no? Basilare. Semplice, proprio... Alex, non sarebbe tutto più semplice? Oppure tu anche cerchi il perché? Ma in realtà sì, è da sempre la letteratura, la filosofia si interroga sul fatto di non sarebbe tutto più semplice se... ed è vero così, nel senso la scelta della pillola rossa e pillola blu, cioè certe cose sono più semplici e poi qualcuno vuole andare a rompere i coglioni, ma per il gusto di rompere i coglioni dice no, scelgo la pillola, voglio svegliarmi, e poi alla fine scopri che è tutta una merda infernale e qualcuno dice ma forse era meglio che rimanevo dentro. Io non lo so, ripeto, trovo che sia, adesso torno un pochettino nei panni del sottoscritto, trovo che sia affascinante tutto questo e che il fatto che ne stiamo discutendo così in maniera sarcastica aiuti il fenomeno invece che sarcastica. Esatto. Una parte di me vorrebbe veramente avere quella follia pura in cui qualcuno si sveglia e dice sei un terapeuta, sì, pum, ti spara in faccia, così magari forse questo fenomeno si argina, però diventerebbe un po' problematico e probabilmente non sarebbe né legale né altrettanto costruttivo, per cui trovo che sia una di quelle cose, uno dei cancri della vita di tutti i giorni che uno deve imparare ad apprezzare o imparare a tollerare, e cercando di purificarsi ogni tanto e di mantenere una sorta di propria sanità, di salvezza spirituale per evitare di cadere nell'oblio. Dico sempre scusa. Scusa Ale, non volevo interromperti, però stavo a leggere giustamente una cosa e mi è caduta l'occhio su una cosa che mi ha fatto ridere perché sono un cretino, però vabbè, scusa, continua, prego. No, nel senso, non mi ricordo neanche più. Dopo. Esatto, okay. Ti faccio ridere. No, perché qui stanno continuando a fare la discussione su che cosa è appeso. Quindi, giustamente, Vargion dice: vabbè, appesa delle depositi, ho appesa al soffitto, dice zio, quindi roba del genere. E poi, insomma, c'è la frase così, sai, quelle frasi che a un certo punto sono rivelatrici, insomma, delle verità, no? E poi ci sono le spaventapasse. Che in effetti è una cosa che capiamo noi, ma vabbè, è un po' triste il fatto che lo capiamo soltanto noi, però mi ha fatto ridere, scusate, mica che... E la cosa più triste non è che la capiamo, ma che è stata pronunziata non davanti a una barca. Esatto, questo è... Purtroppo dobbiamo... Che è successo? Porco demonio. Tranquillo, tutto a posto. No, whisky sul mixer. Aspettate, no. Continuate voi che vado a prendere una salvietta. Una salvation. Una salvezza. Vabbè, Michele... Bello queste cose, perché dirette, potrebbe saltare tutto in un momento, da un momento all'altro, gente che viene fulminata. Comunque nel documento c'è una cosa interessante che parla degli scienziati che spiegano cosa succederebbe se la Terra fosse piatta. E invece, infatti, ce l'ho aperto. Io gli do una lettera. Che dice qua? Allora. E sfatiamolo, perché ovviamente sono tutte cazzate. Cosa succederebbe se la Terra fosse davvero piatta? Nonostante il fatto che ci siano ampie prove in base alle quali sappiamo che il nostro pianeta è in realtà rotondo, in realtà non è rotondo, ci sono molte persone che discutono contro questi fatti e sono convinti che la Terra è piatta. La Flat Earth Society e la Terra piatta. Bello, la Flat Earth Society ad esempio sostiene che il nostro pianeta è in realtà piatto con le immagini video resi disponibili attraverso NASA, ESA, Roscosmos e altre agenzie spaziali sono i risultati delle immagini generate dal computer, quindi in CGI. Infatti, più di 2300 anni fa, antichi filosofi e geografi greci, riuscirono a calcolare la circonferenza del nostro pianeta e a concludere che la Terra era rotonda. Infatti, Eratostene di Cirene, che nomi di merda che avevano. Un matematico greco, geografo, poeta, astronomo e teorico. Teorico di quanta roba che faceva. Adesso è come la storia del coso del bidello che voleva far medico. Eratostene una volta. Adesso invece Non è più toste. Non riempie più buchi, dai. E anche il terzo capo bibliotecario della biblioteca di Alessandria, quello della circonferenza della Terra. La Madonna, quella è roba seria. Naturalmente, no, vabbè, tutta sta roba a calcolare. Lupman, sì, che cosa accadrebbe se la Terra fosse in realtà piatta? Cioè, come ti metti il dubbio come se fosse in realtà piatta? Vabbè. Tuttavia, e nonostante le convinzioni della Flat Earth Society, un blog rivelatore della Mount Dorothy, della Pop Observer, presso la Columbia University, spiega cosa succederebbe se il nostro pianeta fosse piatto. Vediamo questi ciarlatani cosa dicono. Primo, una Terra piatta come quella che la Flat Earth Society difende potrebbe non avere gravità, quindi non è grave. Non è chiaro in che modo la gravità potrebbe funzionare o essere creata in un mondo del genere, afferma il geofisico la Mount Dorothy James Davis, nato un nome in merda, cioè, ma tutto un nome di merda, cioè, non so, cioè. Uno che si chiama Giorgio, no. Questo è un problema enorme, poiché la gravità spiega una vasta gamma di osservazioni terrestre e cosme, sì, vabbè. La stessa forza misurabile che fa cadere una mela, dimmi. Secondo me sotto la Terra piatta c'è un generatore di gravità. Eh sì, c'è un enorme magnete normale che ci tiene incollati. Calamitone. Esatto. Ma allora, secondo me, tutti questi articoli sbagliano un principio. Cioè, non si può pensare di confutare una teoria complottista di questo tipo utilizzando la scienza. No. Perché uno potrebbe dire, io una cosa non la vedo, non ci credo, dunque non esiste. Per cui, se mancano gli assiomi stessi della fisica, cioè, non puoi parlare di fisica in un mondo... Cioè, per dimostrare qualcosa alla gente che non crede nella fisica stessa, capisci? Cioè, non è falsificabile, oppure cioè, il principio di Karl Popper, che non è la droga che piace a della gente particolarmente allegra, ma è praticamente il principio su cui si basa l'epistemologia della scienza moderna, sai, come si costruiscono gli esperimenti e altre, cioè nel momento in cui tu realizzi una teoria devi anche presupporre i modi in cui rendere falsi, in cui dire, però se succede succederebbe sta cosa, sta teoria verrebbe a male. Ha detto una cosa intelligente in chat, non so che significa, ma sembra intelligente, sembra intelligente, perché ha detto non esiste gravità ma solo differenza di densità. So che cazzo non lo so, invitalo, tiralo dentro su Skype o facciamo anche lui, ma buttiamo dentro qui. Anche io sono partito così. No, ma comunque alla fine, cioè, io voglio arrivare a un punto della questione, perché poi ci ho ripensato. Per me sta cosa della Terra piatta è una gran stronzata, proprio, posso dire. Forse mi è deluso un po'. Io ci stavo credendo. Anche io, ormai once you try flat, you never go back. e quindi non so, a parte, vabbè, Alex non ci ha proprio mai creduto veramente, però sì, guarda, io sono convinto di questo. Allora, tu credevi più nella teoria di Pac-Man, secondo me. Sì, no, nel senso, parli delle scie chimiche e dici vabbè, effettivamente è una scia, c'è roba chimica, perché la chimica è dappertutto. Potrebbe anche succedere, cioè, nel senso, è plausibile, non è plausibile, però nel senso è possibile la cosa, che ci siano gli alieni, ci vengono nascosti, sì, è possibile, cioè, ci sono un sacco di teorie tra virgolette complottiste. Secondo me ogni volta dicono qualcuno dice hanno creduto anche a questo, vediamo se credono anche alla Terra piatta, ma no, figuriamoci la Terra piatta, cioè, nel senso, non arriveranno mai vediamo, cioè, a questo punto io voglio sapere qual è what's next, qual è cosa arriva dopo la Terra piatta, cioè cosa, perché sono curioso, su alcune cose non dico che ci credo, però nel senso, vabbè, se qualcuno ci crede non mi stupisce più di tanto, ci può anche stare, ok, sì. Però sai, è lì il limite. Cos'è la prossima cosa? Che i palloni da calcio sono intelligenti e ci controllano? Sarebbe interessante. Ma guarda, io veramente poi alla fine, adesso scherzandoci un attimo, perché poi a noi ci piace un po' per culavo, magari qualcuno ci rimane offeso perché qualcuno veramente ci crede a sta roba. Cazzi suoi, scusami. Sì, no, ok, sono d'accordo, perché al di là la vera grande domanda, no, che tutti fanno, veramente poi diciamo perché, ma non tanto perché, ma perché una società dovrebbe sprecare una quantità improponibile di risorse, perché qui veramente per tenere in ballo la balla che la Terra è tonda invece che piatta, cioè servirebbero una quantità di risorse improponibili, no? Oltre la metà della popolazione dovrebbe mentire, diciamo così, no? Quindi è veramente la cosa incalcolabile. Ma poi perché la Terra dovrebbe essere piatta, tra l'altro, detto fra noi, no? Però io mi sono reso conto, andando un po' a cercare in giro, che sì, è vero, come diciamo, noi conosciamo un po', diciamo, le cose più strambe, no? Cioè quelle più famose, la Terra piatta, le scie chimiche, poi quale altro? Beh, ultimamente il 5G. Il 5G, Bill Gates, vabbè, questi non so. I vaccini. Sono cose, che insomma, esatto, i vaccini. L'allunaggio. Esatto. L'allunaggio. L'allunaggio casuto. Vabbè, l'allunaggio, roba già. Però, insomma, io ho visto che le teorie, cioè nel senso del complotto, ce ne sono tanti. Io a volte mi domando anche, veramente mi domando perché. Perché, ok, la Terra piatta, tu dici, al di là del spropositato numero di risorse che ci vorrebbero, però dice serve perché se ti convincono di una bugia così colossale hanno veramente il controllo su di te. E ok, questo si sta. Ma i falsi Beatles, per esempio, no? Cioè, nel senso che non solo McCartney è morto nel 69, ma in realtà tutto il resto della band non sarebbe mai esistita. Quindi quelli che in realtà sono falsi, i Beatles non esistono. Cioè, perché? A che pro? Cioè, nel senso, se non fossero mai esistiti non sarebbero manco diventati famosi, poi tutto sommato, se proprio lo vogliamo andare, no? Ma perché inventarseli? Cioè, c'hai le canzoni, usale. Esatto. Perché ti diventare un gruppo fasù? Cioè, per carità, ci sono i cantanti finti, no, che fanno finta di cantare, in realtà la, ma assolutamente sì, ma qui stiamo parlando di una band che per 50 anni ha calcato i palchi di tutto il mondo, però sono finti, cioè sono finti. Ma ammesso anche in un concesso che proprio ti voglio concedere, ok, e sti cazzi? Cioè, che mi cambia a me? Non so, Alex. E sto pensando, io sono, cioè, nel senso, nella mia grettitudine complottista, penso che tutto quanto faccia parte di una sorta di necessità di studio, no? Nel senso, è un po' come mettere i topolini nel labirinto per vedere se escono. Noi siamo delle cavie messi in un labirinto molto complesso, che è il nostro pianeta, la nostra vita, la nostra mente, per vedere come è la nostra mente. Magari siamo un test per fare training di un'intelligenza artificiale. Potrebbe essere interessante come cosa. Un training set abbastanza ampio, sai, 7 miliardi di esseri viventi. Io ci sono, siamo set per un training, per un'app che usa l'intelligenza artificiale per ritagliare direttamente le foto. Automaticamente le foto. Ti devo una birra di quelle dimensioni catartiche. No, basta che mi dici che mi vuoi bene, sono contento, Alex. Davvero. Comunque questa pure è bellissima, la Finlandia non esiste. Allora, questa è una notizia recente. Allora. Cazzo. Questa è una notizia recente che gira dal 2015 su Reddit, che ha iniziato a circolare, secondo la quale praticamente il paese del Nord Europa non esisterebbe e sarebbe praticamente una realtà fittizia architettata da Russia e Giappone al termine della Seconda Guerra Mondiale per spartirsi il pescato del Mar del Nord, del Mar del Nord. Insomma, cioè, non esiste fisicamente, o hanno messo loro su tutto quanto il governo? Non esiste, esatto. No, non esiste proprio, no, cioè, okay, nel senso, okay. non c'è. Cioè, quindi lì che cosa tutta sarebbe? Tutta quella penisola non esiste. Anche il Molise non esiste. Vabbè, questa è una cosa che noi sosteniamo. La gente l'ha inventato per spartirsi il pescato del Marl. La NASA Adriatico. Non è mai arrivata su Marte, quindi non solo sulla Luna, ma manco su Marte. Ah, questa è bella, questa l'ho letta recentemente, che è bellissima. La Rowling non esiste, manco lei, è una montatura. Questa è praticamente una regista svedese, mi pare, che ultimamente ha sostenuto che la scrittrice in realtà non esiste, ma tutti i suoi libri, che sono stati scritti molto velocemente, in realtà sono il frutto di un team di lavoro che... Però in realtà la scrittrice sarebbe fittizia. Anche qui in realtà non sarebbe neanche la novità, cioè nel senso Ghostwriter ce ne so a bizzeffe, anche autori conosciuti, sconosciuti, insomma, che magari non hanno... Io c'avevo un mio amico che scriveva dei libri, li scriveva lui, ma poi venivano venduti in edicola come libri di Josephine Frankenstein, quindi cioè nel senso di Josephine. esatto. E lì purtroppo abbiamo perso dei file che insomma avrebbero oro, erano oro. Avril Lavigne è morta nel 2003, anche qua c'è la famosa foto che li accostava, insomma, vabbè. chi è Avril Lavigne? C'è un attimo un buco di... La cantante giovane che è morta. Che è morta. Complicated. Allora, poi dopo c'è praticamente un antropologo che dice che il Medioevo non esiste, cioè un'altra cosa. Infatti, insomma, non esiste, il mondo in un'altra epoca non esiste più. È stato creato nel 68 il mondo, per cui, cioè, o nel fine 1800, per cui va bene, ci sta. Media res, sono fantasmi. Mi sento battere, mi fa paura sta cosa. Comunque, vabbè, il carburante degli aerei non può fondere l'acciaio. Vabbè, questo è un po', ce ne frega un cazzo. Donald Trump. No, era per le torre gemelle. Ah, sì, sì. Ah, ok. Sì, spento non ci riesce. Ma è normale che io sento. Sì, ok, a posto. Donald Trump. Vabbè, ma è un po' come dire: non può, anch'io non posso prendere a pugni qualcuno perché poi mi mettono in galera. Però fisicamente posso. Cioè, per la legge, uno dei famosi 42 emendamenti della Costituzione americana, il carburante degli aerei non può bruciare l'acciaio. Se poi lo fa, ne pagherà le conseguenze. E quindi? Quindi niente, cazzo, che persone becere che siete, dico delle perle. E voi no, nel senso, e quindi se questa cosa è così, allora è vero. È vero, è verissimo. È vero. E niente, praticamente Donald Trump si sapeva già dal 2012 che... dal 2000, quindi 2000, quindi dal 2000 si sapeva già che Donald Trump sarebbe diventato presidente. Vabbè. E malgrado tutto lo hanno votato. Vabbè, considera che c'è pure il cartone animato, quello famoso della puntata dei Simpson, no? Che... no? Sì, esatto, questa è la cosa, cioè i Simpson che sono la cosa più massonica di tutte. Infatti quando Ollie e Benji vedono Bart Simpson si inchinano, maestro. Benji, no, tu sei più massonico di noi, giustamente. Sì, cioè, così. E gli dicono, hai la tessera numero uno, non sconta comunque, quindi, mentre si inchina. Che ormai è il nostro modus operandi, okay. Vabbè, che se, in realtà poi la cosa inquietante è che poi tutto questo lavorare, diciamo così, di fantasia, se vogliamo, insomma, su quelle che sono il complottismo, tutte queste cose qua, in realtà alla fine c'ha delle radici scientifiche, perché un po', insomma, anche la scienza nella vita andava un po' a tastoni, nel senso, soprattutto fino a un certo punto, no? Nel senso, si buttavano giù teorie un po' a cazzo, tipo cose, insomma, approssimative. Poi dopo, magari facendo ricerca con l'aumento anche degli strumenti per poter fare, che ne so, misurazioni o cose del genere, poi alla fine sono uscite fuori magari altre realtà piuttosto che. Però sta cosa è abbastanza interessante, perché chiaramente se sbagliava la scienza, allora, cioè, può essere tutto, nel senso, non so, cioè, per esempio, vogliamo elencare alcuni esempi di teorie scientifiche un po' astruse oppure sbagliate? Non so, vi viene in mente qualcosa? Sinceramente no, in questo momento, bene, però, bene, sai, bene. È bello essere preparati. Allora, siamo noi a generare gli universi. Vabbè, questa... vabbè, che se so, vabbè, aspettate, perché poi dopo pensavo il che flogisto, qualcuno avesse aperto... Il flogisto. Vai. Chi non se lo dimentica il flogisto? No, è che si pensava che perché la roba e le persone bruciano? Perché hanno questa sostanza, il flogisto, che quando avviene la combustione si consuma piano, fino a scomparire. Perciò poi quando non c'è più la combustione, perché è finito sto flogisto. E poi hanno scoperto che in realtà c'è l'ossigeno, che bla, è una bla, e quindi è una strozzata. Sì, questa ma la ricordo, dai. Poi che cazzo c'era? La ricordi perché la sapevi? La sapevo, sì, l'ho studiata alle medie. Questa cosa l'ho letta ieri. No, l'ho studiata alle medie, mi ricordo. Però è una cosa strana, perché pure io avendolo studiata alle medie, per me è una cosa scontata quasi, vabbè, una cosa che si è studiata. In realtà parecchie persone, sia più giovani e più vecchie, dicono: ma che è sta roba? Quindi mi sento. Ti senti? Mi senti partecipe, insomma, di questa cosa. No, io ho linkato in chat un articolo scientifico che prende praticamente le sette teorie scientifiche più divertenti, diciamo così, insomma, se qualcuno ci vuole dare l'occhiata, mentre io vado avanti con il resto dei documenti, perché poi alla fine, insomma, ce ne sono diversi, insomma, di queste cose qui. Aspettate che vado a aprire anche l'altro documento. Ancora, ma basta, dai. Quale, quale documento via, deve aprire? Cioè, abbiamo detto si è aperto quello lì delle 50 sfumature di grigio qua. 50 teorie scientifiche folli. Ah, quello è preso quello là delle guarda, io ho trovato quello del Reich sotterraneo. Ok. Per vai. Dire teoria del complotto, molti gerarchi nazisti sono sopravvissuti dopo il 40. Gli anni 40 e avrebbero creato un Reich sotterraneo, però ragazzi questo è un scaico sottoterra, cioè non mi sembra molto originale. Un impero nascosto che controlla molte aziende tedesche e che si impone su alcune famiglie della politica mondiale. Questo è bellissimo. Sbarco sulla luna inesistente. Goldman Sachs controlla praticamente è un controllo il mondo, perché è uno strumento di potere ebraico volto a controllare perché ebraico cioè. Certo i fratelli Cohen, no, queste cose qua, no. Non so i fratelli, la famiglia Cohen, esatto. C'è anche uno sulla morte di Diana. I fratelli sono i registi. Ce n'è una sulla Diana. L'HIV è stato creato da qualcuno. Vabbè, ma questa è storia che si ripete. Vabbè, sì, ma poi veramente la questione dell'ADD è particolare, perché cioè, lì pure ce ne sono uscite diverse. E secondo me qualcosa è anche vero. Insomma, diciamo che questa l'hanno fatta veramente un po' tipo mori ammazzato. Uno si domanderebbe sempre perché. Sono d'accordo. Nel 1628 a Milano si pensava che la carestia del grano fosse stata provocata di proposito dagli intercettori di grano e dai fornai, cioè praticamente facevano sparire il grano e facevano morire la gente di fame. Bella. E un'altra grande teoria di complotto era quella degli untori, poi che tornano di moda, insomma, di tanto in tanto. Bellissimo. Costruzione delle piramidi, ce ne stanno tante. Barack Obama è in realtà Osama Bin Laden. Anche questo, cioè, ma ce la vogliamo dimenticare? Cioè, che bellissimo. No, questa non l'ho mai sentita, devo dire la verità. Ma l'avevo dimenticata, sai, perché normalmente cerca di dimenticare. In origine era Barack Osama. Esatto. Citazione comunque, non è mia, ovviamente, del telefilm del Newsroom. Ah, che delusione. Delusione. No, io sono onesto quando dico una minchiata, no, dico anche che era suggerita con la H tanto noi non lo sappiamo. onestè vabbè, no, più che altro sì, ok, dai, vabbè, questo è un po', diciamo, l'excursus riguardante le cazzate, perché questo a noi ci diverte, insomma, volevamo tornare con una cosa volevamo convincervi che ce l'avamo convinti, non ci siamo riusciti. Ci è mancato qualcosa. Molto, perché anche noi siamo suscettibili al bias della conferma, cioè il fatto che dobbiamo trovare. Aspetta, che hai detto cosa? È una bias della conferma. Sembra come che abbia detto bias, una come distorsione come biastima. Cioè, torna tutto, vedi, torna tutto della conferma. Per cui noi andiamo sempre a ricercare le robe che confermano, le robe che già sappiamo, che già vogliamo, a ignorare, a scartare, a dire ma no, sono cazzate, le robe che mettono in conflitto, mettono in difficoltà quello che già crediamo, perché il nostro cervellino è bello avanzato, però comunque è a risparmio energetico, quindi se può risparmiare energia, perché inserire una scienza nuova, cambiarla, fa fatica, quindi tende più, ma no, sta cosa qua è una cazzata, non è vero, no, questo è vero, oppure, quindi anche noi siamo soggetti a questo bias di conferma, a questo biastima di conferma, per cui... Biastimi. È il diminutivo di biastimi. Comunque, se io ci avessi un jingle, adesso lancerei il jingle di Ridateci il tempo perduto. Così jingle Ridateci il tempo perduto. Yeah. È bello. Vabbè, cioè. Molto anni 80. Sì, fa un po' sì, radio anni 80. Allora, Ridateci il tempo perduto. Poi c'era anche il sangue del tapiro, ma non ci ricordavamo neanche di che cosa parlava. Il tapiro sono le leggende urbane del mare. Vabbè, ma poi ci organizzeremo meglio. Questa è una puntata che ci tenevamo a fare per tornare. Poi vedrete che nelle prossime settimane, insomma. Non più. Non ce la fa, che ce la fa. No, nelle prossime settimane torneremo. E gli daremo giù, perché c'ho delle cose da tirare giù che le altre carisate. Poi, c'hai proprio i bias. Sì, c'ho le cose dei bias. Bias, quelle idee. Cose. Bias. Allora, io inizio io, che è più semplice, sono molto veloce. Io un tempo fa, infatti già ne avevo parlato, ho visto una serie su Netflix, si chiama Colony, che è un po' che ha qualcosa a che fare col colon, ma lo sapevo che l'avresti detto, cioè nel senso ma lo so, ormai quella cosa da Alien Colon Marines ormai, esatto, cioè, mi è rimasta dentro. Esatto, andatevi a recuperare il gameplay su Dietrologia Videoludica su YouTube, c'è ancora, quindi come tante pensa altre, un po' che roba byte sprecati per le nostre stronzate. No, Colony è praticamente la versione, diciamo, leggermente più tollerabile di Fall Skies, perché se Fall Skies è proprio la versione strabecera, politicamente becera, dove praticamente gli americani dicono fascio propaganda, esatto, noi siamo l'America e tutto ciò che viene da fuori è merda, è merda, e noi siamo orgogliosi di noi stessi, le armi spariamo a tutti quelli che si muovono e via dicendo. Colony, orgoglio, Colony è più sottile, cioè i principi sono sempre gli stessi, perché poi c'è sempre sti alieni che vengono e che sono il nemico, chiaramente, perché non c'è mai una volta che arrivano gli alieni e che però sono gentili, cioè tipo, allora noi eravamo di passaggio, avevamo visto, insomma, voi state un po' con le pezze al culo, vengo, vi damo una mano, no? No, sì, sì, gli alieni sono sempre vengono a rompere il cazzo. Tra l'altro prende un plot molto simile a quello dei Fall Skies, perché sia su Colony che su Fall Skies ci stanno gli alieni che occupano la Terra, ma poi arrivano altri alieni che sono ancora più incazzati e che sono i nemici degli alieni che hanno occupato la Terra. Alien Inception. Esatto. Quindi sta cosa succede anche in Colony. Allora, la prima stagione era una merda, veramente una merda, raga. Il protagonista è quello che faceva Sawyer su Lost, perché che è identico, cioè nel senso c'ha quelle tre facce, fa sempre quello. Anche no, però stavolta si è imparato a fare la faccia del pianto disperato del padre, disperato. E praticamente la cosa bella, però, questo perché è più sottile questa serie? Perché questa serie, al di là del concept classico, tutto ciò che è alien è comunque avversario, però poi qui c'è anche il discorso del collaborazionismo, quindi l'istituzione praticamente di una sorta di governo di collaborazione dell'occupazione, che però è politicamente più, diciamo, come posso dire, ben vista dall'ottica dell'autore, piuttosto che la resistenza, perché la resistenza viene vista come un fenomeno naturale per la lotta della libertà, ma viene comunque sempre messa in una cattiva luce, cioè come se fossero comunque sempre un covo di vipere traditrici e infami. Infatti il protagonista, lui, che finisce per collaborare praticamente con l'occupazione, lo fa per aiutare la propria famiglia, tutto sommato lo fa anche a fin di bene, viene sempre messo in una luce sempre più positiva rispetto alla moglie, che invece collabora con la resistenza, che è una traditrice infame. Cioè è proprio il concetto di sta merda americana prodotta da Fox, che questa è tutta merda di Fox, che voi sapete che Fox è proprio il massimo del conservatorismo americano, no? Dove praticamente comunque loro buttano sempre ste cose che ci hanno... Sarà contento Carlo di questo, però va bene. No, è così. Ma poi Carlo non è che... Cioè... Non è conservatorista, però. No, poi non è che Carlo, perché uno perché lavora a Fox è come Fox, cioè nel senso... Da parte per il tutto, no, per carità. Cioè, voglio dire... Cioè, senso... Sarà contento, era bello. Sì, vabbè. A parte che non esiste più Fox. Non esiste più, infatti. Il problema... Non è mai esistito Fox. No, esatto. C'è la teoria del complotto che dice che una volta esisteva Fox, ma è sempre stato Disney. Esatto. Perché Fox era piatta. Era pianta. Vabbè, comunque Colony, questa è veramente arrivata, c'è il tempo perduto. Perché sto rivedendo la seconda stagione? Perché ho detto, la terza stagione, anzi, che le prime due stagioni già me l'ero viste. Perché è uscita recentemente, Netflix ogni tanto diceva, guarda che è uscita la seconda stagione di Colony. Vabbè, ma franca, guarda che è uscita. Allora, senti, stamattina mi sono messo a riguardarla. Devo dire che c'è un certo momento in cui succede una cosa che non mi aspettavo, devo dire, da una serie come questa. Però veramente, raga, cioè, è un po' meglio rispetto alle altre, le prime due stagioni. Però è proprio questo principio che la resistenza è comunque un covo di infami e che veramente è una cosa brutta, proprio brutta, cioè, brutta. E di terroristi. Brutta. Questo era, insomma, il mio ridatemi il tempo perduto. Alex, vuoi sapere il mio tempo perduto oppure vuoi sapere la mia domanda? Dire, ma perché chi te la fa fare di guardare una cosa che non ti piace? Cioè... No, io purtroppo chi te la fa fare? Io purtroppo ho questo problema. Io inizio a vedere le cose, poi mi rendo conto che fanno cagare, e allora a quel punto mi si apre un dubbio morale, cioè per necessità antropologica di vedere fino a che punto vanno a finire le cose, me le vedo comunque. come Rain. Io ve l'ho già parlato di quella serie svedese, penso, ho visto solo la prima stagione, che era fatto male, era brutto, no, proprio brutto. Però poi voglio vedere come va a finire. Certo, non è che sono lì a perdere tempo, cioè faccio altro e la guardo nel mentre, quindi che ne so, scrivo cose, preparo, pulisco, lavo i piatti, cucino, roba del genere, e me la guardo, cioè quindi non è che sto proprio lì a perdere totalmente il mio tempo. Però comunque le seguo abbastanza, e quando ho iniziato una cosa è difficile che la finisco, cioè voglio vedere come va a finire, insomma, diciamo. Okay. Capito. Vai Alex, dici tu. Allora, dico la mia. Il mio tempo perduto è: ho visto le prime 9 puntate di 10 di Diavoli su Sky. No, aspetta, io non lo volevo vedere. Cioè, ero interessato. Di cosa, scusa, ho visto i primi 10 minuti. Diavoli su Sky. Ah, Diavoli, okay. Diavoli, non sapevo neanche che esistesse. Praticamente è un incrocio tra una produzione italo-francese di Sky con Massimo Ruggero, scusami, Alessandro Borghi, Cassia Smutnik. Esatto. Vabbè, e Patrick Dempsey, ed è veramente una cosa che è un incrocio malvagio tra Suits e non lo so, gli occhi del cuore. Cos'è Suits? Suits, sei presente? Ah, Suits. Okay. No, non ho presente, però ho capito la parola. Terribile, veramente. A metà della prima puntata speravo che il protagonista morisse inculato con la sabbia. Quello di dietro gli diceva: non che da dietro non scotta. Esatto. Man mano che va avanti è insopportabile. Vuole fare la serie che ammicca: oh, questi personaggi sono fighi, sono potenti, sono ricchi di qua di là. Però in realtà, alla fine, è una serie che appunto parla del. Si svolge nella fine degli anni 2000. È un po' come dire, c'è un grande impero economico che ha movimentato i vari casini economici, perché era la grande crisi con cui hanno fatto un sacco di soldi. L'idea di sfondo è questa. La realtà è che è accozzata, recitata male, sceneggiata modelli F4 Basito e F5 Famoli Scopo A, così del bot senza senso. terribile. Hanno anche annunciato una seconda stagione. Io trovo che sia insopportabile. Perché le cose brutte piacciono, perché... ricordate sempre che... Sì, è veramente. Fa il verso veramente a un sacco di cose americane che hanno un po' più di sostegno e degli attori che sono capaci di recitare. Senti, tu perché l'hai vista? Perché voleva vedere mia moglie. Io francamente mi metto a guardare il telefono quando c'è sta roba qui. Mentre, scusa, chiuso parentesi, invece del tempo che non è perduto, ho visto Upload su Prime Video. E mi è piaciuto molto. Parliamone, faremo una puntata in cui ne parleremo. Sì, assolutamente. Devo dire, pure lì Prime, upload, non sapevo veramente neanche che cosa ho cliccato, e poi alla fine io e Michela ce la siamo succhiata praticamente in un paio di giorni, insomma, quindi è proprio... Sì, perché sono 10 puntate da mezz'ora. Sì, diciamo che le prime 2 puntate sono lunghe, mi pare, sono abbastanza lunghe, la prima comunque abbastanza lunga. Poi dopo sì, non so, lunghissime, e devo dire sì, ne volevo parlare infatti, quindi mi fa piacere. Allora, voglio solo dire che l'autore, lo showrunner di questa serie è quello che ha fatto King of the Hill, poi ha fatto The Office americano, ma soprattutto Parks and Recreation, che secondo me è una delle serie più belle che sono uscite negli ultimi 50 anni. E avevo grandi aspettative per Upload. Per essere lui, secondo me Upload è molto più morigerata, è molto più normale. Le altre serie sono assolutamente fuori di testa. E aspetto a questo punto che arrivi su Netflix Space Force con Steve Carell, che ritorna a collaborare con lui dopo The Office, e praticamente racconta di una task force per creare guerrieri che devono andare nello spazio. Deve far ridere, se sembrerebbe. Esce su Netflix venerdì. Sono curioso. Bene. Sì, no, comunque di Upload ne parliamo, facciamo una bella puntatina, perché devo dire, la rosicata è che molto tocca aspettare non si sa quanto per vedere, perché veramente c'è il cliffhanger, non fame pure un pochino. Comunque, la bionda, ma quanto è gnocca. Lo sapevo che l'avresti detto. A me, io e te ci abbiamo dei gusti che non saranno mai compatibili. No, piacciono le bionde slavate. A me piace l'altra, per esempio. Cioè. L'altra è molto carina. Se tu la vedi nella vita reale su Instagram è proprio un gran figone. Però nella serie mi piace molto soprattutto come si veste, come si atteggia la bionda. Ah, vabbè, sì. Personaggio interessante. Io la prenderei a cazzotti sulle gengive ogni 2x3. Quindi, vabbè, comunque ne parliamo. Marco. Allora, io invece vorrei parlarvi di un bellissimo film che dopo averlo visto mi sono chiesto... Ah, scusa, Tomà, annunzio, hanno rimandato il 30 maggio il lancio di SpaceX, no, così, chi ci ha lasciato in pace? Vedi, per svelare l'arcano, invece sveglia. Punto esclamativo. Perché devono ricambiare il nome alla figlia di... esatto, cioè devono battezzare la nave con quel nome, non sapevano quale. Io volevo parlare volevo parlare di un film che praticamente l'ho visto e mi sono chiesto perché non è un film brutto, perché tu dici non è quei film che dici mazza che schifo, mi ha trasmesso lo schifo, no, è quei film che li vedi e ti dici ma che cazzo l'ho visto a fare, cioè perché, che senso c'ha. Allora, il film è Passenger, non so se lo ricordate, è un film che è uscito qualche anno fa con Chris Pratt, che praticamente significa Cristiano Scoreggia, brutta anche, perché Chris Pratt è una scoreggia brutta. Esatto, poi Jennifer Lawrence, giusto? Non sbaglio? Sì. Ok, poi Lawrence Fishburne, che è praticamente Lorenzo Bruciapesce, come lo possiamo chiamare tranquillamente. Praticamente viaggio a sonare... Ma perché devi tradurre? Perché sono nomi bellissimi in italiano. Bellissimi. Viaggio di 120 anni verso un nuovo sistema solare, verso nuova vita, verso un nuovo Eden, nei cazzi vari. Astronave fighissima. Ma tutta puttane. No, quasi. Arriva un campo d'asteroide, un mega asteroidone, si schianta contro lo scudo e comincia ad andare un po' a puttane alcuni sistemi che sembrano autoripararsi. Tranne la capsula del criosonno, della l'ibernazione di Chris Pratt, perché ci sono 5.000 persone sopra questa nave che stanno andando verso... Però solo quella di uno. Solo quella di uno. Bella solo... sfiga. Bella sfiga, perché poi tra l'altro sto povero Cristo si sveglia 90 anni prima di arrivare e non può rimettersi a dormire, perché quelle capsule servono praticamente per mantenere l'ibernazione, ma non sono fatte per farti andare in ibernazione. Questo lo scopre nell'anno che passa da solo a farsi crescere la barba, a farsi crescere, a diventare grande nei boschi praticamente, perché l'unica compagnia che c'ha è l'alcol e un androide barista che sta attaccato al bar e fa avanti e dietro e gli fa da bere. Dopo un anno c'è tre possibilità nella tua... tu Simone Pizzi, dopo un anno c'è tre possibilità: o t'ammazzi, te butti nel vuoto, oppure decidi... No, guarda, ha preso l'asteroide, fratelli. Oggi doveva andare così. No, davvero. E poi praticamente cioè, la seconda possibilità è: va bene, vivo finché posso, tranquillo, lo accetto, dopo una settimana t'ammazzi, perché cioè, immagino di stare da solo su un'astronave. Oppure mi trombo Jennifer Lawrence, perché tu trovi la capsula di Jennifer Lawrence, scopri che gnocca, l'apri, ti innamori perdutamente e passi il pezzo di merda, l'apri, cioè. Passi il tempo, ma che faccio, l'apro, però se l'apro dopo stavo in due, sì è bello, è figo, però poi dopo lei si incazza perché l'ho distrutto la vita, perché non ci sarà mai arrivato, pure chiede pure consiglio all'androide, che ovviamente l'androide non capisce il cazzo, che vuole capire questo. Alla fine fa la cosa più giusta, cioè la sveglia, perché giustamente bisogna ficcare, come si dice, bisogna riempire i buchi e giustamente cerca di fare in modo che sembri un incidente, come per lui è stato un incidente, pure per lei è stato un incidente, perché gliela butta così. Perché l'idea è che anche se io fossi l'uomo più brutto del mondo, cioè comunque sto da solo con una donna, cioè la possibilità di ficcare è alta, diciamo che è molto alta, e siccome che è pure Chris Pratt, insomma non è manco l'ultimo dei cessi, la speranza era molto alta, e in effetti ficca. Quindi dopo un anno di trombamento più o meno, l'androide si lascia sfuggire che praticamente il risveglio non è stato casuale ma è stato voluto, e lei si incazza, cioè mortacci tua, mi hai rubato la vita, bla bla bla, romper cazzo, vai a lavorare, fai le solite palle. Quindi tu immagini un altro anno praticamente con questo. Questi nel frattempo si mangiano le risorse di tutti quanti, poi sì vabbè, ma sono per 5.000 persone, capito, però so, cioè... ma sti, non farti domande, per quando si svegliano per 90 anni si mangiano le risorse. Farti domande, cazzo. Okay. Vabbè, allora è un anno che lei rompe il cazzo, giustamente. Quindi lui cerca di riconquistarla e fa un buco sulla hall principale e ci pianta un albero. Che arriva, non si sa perché, si sveglia il capitano, che è Lorenzo Bruciapesce, Lawrence Fishburne, il mitico Morpheus. Arriva e dice: ma le mortacci vostre, che cazzo avete fatto? Voi immaginate un picar che si trova un albero dentro il bar de prora. Penso che si incazzerebbe. Tanto che morti de bestemmie. Esatto. Quindi lui si incazza un attimino, però alla fine chiacchierando siamo gli unici tre, bla bla bla bla. Lui scopre che praticamente il capitano scopre che la che capsula, lui ha svegliato lei. Esatto, vabbè, ma comunque poi alla fine tutti sanno tutto, non è questo il trauma. Il capitano si rende conto che ci sono dei glitch, degli errori che hanno fatto svegliare anche lui in maniera molto brutta e molto brutale. E a un certo punto, dopo qualche ora, dopo un giorno, due giorni che si è svegliato, e comincia a sputare sangue. E a quel momento si rende conto che è nero. Ed è bruttissimo. Tu sei nero su una nave che praticamente ha degli errori, che comincia... Sei morto. Praticamente capisci che sei morto. Cioè sei cinematograficamente morto. Sei cinematograficamente spacciato. E in effetti gli rimangono poche ore di vita. Lui trasferisce il comando a Chris Pratt, praticamente col braccialettino del comando. Perché lui fa i braccialettini del comando, pizzi. Cioè hanno i braccialettini. E quindi praticamente... Mentre lui sta schiattamortiti da una parte, decidono di capire qual è il problema che sta andando a fare a puttane, andando a puttane tutto quanto la nave. Tu immagina che c'è anche una scena molto carina dove praticamente Jennifer Lawrence nuota, vabbè, però nuota nella piscina. L'unica cosa carina è che a un certo punto si blocca la gravità, esce tutta quanta l'acqua, si forma una palla gigante d'acqua. E lei nuota dentro e non riesce a respirare. È bellissimo, stupendo, fantastico. E muore? No, si salva. Perché poi torna la gravità e lei si salva. Perché la gravità ti salva. Ma spoiler c'è tutto, mi raccomando. Ah, merda. Allora, comunque, in ogni caso, trovano il problema. Però per risolverlo devono riavviare il reattore, che praticamente è una fiamma. È una fiamma. È una fiamma. Ecco. Ma devono far sparare la fiamma da fuori, però non si apre la porta. È il fornello della cucina. Esatto, non si apre la porta, pizzi. Cioè, che devi fare? E allora lui, Cristiano Pratt, scureggia, dice: senti, no, vado fuori io e vado ad aprirla io. Va fuori lui, prende. Bellissimo, prende. Giustamente Girasole diceva: ma praticamente questo racconto è tempo perduto per tutti. Infatti è questo. Il senso è questo di questa rubrica: che dovete soffrire con noi. Okay. Se porta uno sportellone, diceva, questo mi proteggo con lo sportellone, va fuori, apre lo spurgo. Lei spurga, esce fuori tutta la fiamma. Che veramente lui separa questo sportellone e sopravvive. Vabbè, alla fine tutti quanti belli, felici e contenti. E finisce che loro vivono natural durante su questa bellissima una palla. Vabbè, cioè, ma ci credo che è una palla, ma perché? Cioè io mi aspettavo un po' di azione, un po' di mistero, qualche no. È il tempo delle mele con e vabbè, fiamme. E vabbè, io mi sono visto quell'altro lì, quello dell'autore, quello come cazzo si chiama, del Trono delle Spade lì, come si chiama? Nightwings. La serie televisiva Nightwing è quello dei giovani di Young Titans. Comunque è una cosa terrificante, quindi me la so visto tutto. Tu dici la seconda stagione di Titans? No, io parlavo di quello là, sì, sempre da astronave vanno nello spazio. Comunque per la prossima puntata di Morti di Bestemmie invece vi parlerò di Into the Night, ragazzi, perché lo sto vedendo. E le prime puntate promettono non bene, ragazzi, che è bellissimo, insomma, una nuova serie Netflix. Francesco, ma non è la trasmissione che fate il sabato sera, Into the Night? No, quello è Runtime by Night, più bella. Quella dentro la notte, invece attraverso la notte, diverso. Assolutamente bella, insomma. Bello. Francesco, tu c'hai il tuo tempo perduto? A parte sì, questi io... 20 minuti resti gli ultimi passaggi, insomma. Ok, 21 adesso. Io in realtà ci avrei una cosa. Io di solito, visto che sto guardando davvero decisamente poco, sentendo e leggendo piuttosto poco, a parte roba che di lavoro, mi è capitato di... Cioè ce l'ho il mio tempo perduto proprio di qualche giorno fa, però non ne posso parlare adesso. Se ne parlerà su altri... un'altra volta, diciamo così. Ok, va bene. Ok. Però c'ho, ridatemi il tempo bestemmiato e c'ho anche... Ah, bello sto tempo che ho perduto, diciamo così. Ridatemi il tempo bestemmiato, è che nell'ultimo mesetto, grazie al lockdown, mi sono messo un pochino a giocare a un gioco che si chiama WordPress. E io, e questo presto il mio fianco bello, a... Ma non è un gioco. È un gioco. Presto il mio fianco a... ad Alex, visto che bullizzami pure, visto che comunque era il mio primo approccio a roba del genere, quindi io ho sbadonnato alquanto per fare alcune cose. Cioè, la struttura di base c'era arrivata, a fare la home page, vabbè, quella c'è di base, blog about me, sta roba qua. ma poi a scegliere il tema ne avrò cambiati 7-8. Alla fine sono tornato a un tema di base che poi aggiornato ho detto basta, cioè se devo fare le cose semplici facciamo le cose semplici. Poi mi sputtanava tutti i colori e quindi ho dovuto imparare al momento un po' di css giusto per metterci colore, roba. E comunque mo c'è un sito che non mi crasha più e quindi già tutte sono contento qua. Il dominio è? E dopo tuo passo, dai. Dopo ah, tuo ok. Passo. Adesso è ancora privato, è ancora privato. No, no, non è privato, in realtà non è privato, non è privato. È ancora privato. Poi è deprivato. È depravato. Invece non ridatemi il tempo, è successo in realtà sabato sera. In realtà vabbè, tanto è un altro podcast, è un'altra trasmissione, se ne può parlare. Mentre sabato a Runtime de notte si parlava di film e di roba, e Davide Gatti è uscito Tetsuo, eccetera, eccetera. Ho detto, ma quasi quasi. E mentre stavo facendo la trasmissione, tanto ci stanno 3 dialoghi in croce, me lo so visto che tanto c'era su YouTube. Oh, assolutamente di uno sperimentale, ragazzi. Un filmone assurdo, voglio uno filmone incredibile, sì. Madonna. Madonna, voglio la mia vita così a passo uno, pure io voglio la mia vita con la musica industrial di sotto. No, una follia, ma, sì, assolutamente. Bellissimo, lo conoscevo sto film da anni che lo conoscevo, però mai mi no, lo conoscevo davvero. Anche io, però poi alla fine invece se non fosse stato comunque per Davide non me lo sei andato a recuperare, insomma. Poi c'è quindi... anche un 1 o 2 che sono comunque interessanti, non come l'1, però so che comunque no, vabbè, certo, chiaro, immagino. Va bene, guardi, tu Svetlana non ti ha più scritto, giusto? No, grazie a Dio non mi ha più scritto. No, non era solo Svetlana, era anche Caterina. Irina. Vabbè, io dico Svetlana, una di queste, sì, insomma. Cioè, non mi hanno scritto più. Niente. Forse perché ho messo lo spam, non ti spam. No, e per questo è un peccato. Però. Sì, però. Cioè, non è io ho un indirizzo email senza antispam, mi arriva solo spam, lo sto aprendo adesso. Che non lo controllo da una settimana, sarà pieno di 150 mail. Ora vediamo se, un po'. Se c'è qualche. Se adesso Caterina, amore. Ludmila scrive a te. O Svetlana. Svetlana. Magari scrive a te. Giusto per chiudere bene la io cerco un marito italiano, tanti soldi, ma io lo amo tanto adesso, subito. bellissime queste mail che arrivavano. Non mi ricordo se abbiamo chiesto a Gualdi qual era il suo tempo non perduto. Ma perché no, non c'è mai stato il tempo. No, però ci ha fatto perdere troppo tempo con un pasta. Infatti, dai. Mia, che schifo. Sì, hai ragione, mi sul sa che gomito ti devi star nutrire. Hai ragione, devo stare lì dall'altra parte. Scusa, adesso ho attaccato il Covid, potresti anche mi avresti attaccato ormai 10.000 cose oltre al Covid. No, però ricordate che devono essere in due contemporaneamente che ti starnutiscono per poterti contagiare. Io sono 0,50, quindi non. Che culo, allora. A posto. Però quanto tempo mi deve passare? Inizia anche 0,65, dai. Anche sì, volendo sì. Però starnutisco due volte. Esatto. Quindi resterò dopo. Vabbè, però qua da noi no, la statistica è più ancora migliore, insomma, da quel punto di vista. Va bene, c'è qualche Svetlana, Francesco? No, c'è. Vabbè. C'è Sara, però dica, tu puoi diventare il prossimo milionario, scopri cosa dicono persone famose come Bill Gates e Eric Schmidt, verificalo con noi. Bill Gates è un genocida, ricordiamoci, è un genocida, quindi ci vuole uccidere la cuna attraverso i vaccini, ci vuole genocidare e impiantarci, no, farci fare i tattoo quantici. quelli sono importanti, quelli veramente è una cosa tosta. Non me ne esco più. Va bene, ragazzi, io direi che ringrazio e saluto Marco Gualdi. Che dici, Gualdi? Diciamo, dobbiamo ricarburare, però insomma, dai, è stato un buon rientro, dai. Dovremmo farlo almeno una volta al mese, dai, se ci lasciamo una volta al mese. Una volta al mese, che dici, dottor Raccoglia? Ci sto sempre. Ma sei contento di essere tornato? Sono sempre contento di essere tornato, è che vorrei una vita con un giorno di 48 ore in cui posso fare tutto quello che voglio di fare e anche avere la possibilità di annoiarmi. Ogni che tanto mi manca, dici, tanto. Quello perché ti eri abituato un pochetto. Guarda, no, guarda, guarda un paio di film e ti annoio io, però... ti racconto, rivedrai che la notte telefona. Mentre lavori ti annoio. Se tu la sera c'hai difficoltà addormentate, la fai a Gualdi, lui ti racconta un film, vedi che vai tranquillo, insomma. Ok, mi piace. Ringrazio e saluto anche Francesco. Benvenuto a Morti di Bestemmie, tra l'altro. Sì, sì, ma anche addio a Morti di Bestemmie. Ma non è benvenuto perché abbiamo fatto quella puntata che ti sei abbiamo dimenticato sui marchettari, là, sui marchettari. Ma io oramai ti voglio qui, ti voglio assolutamente. Poi ricorda che da dietro non scotta, quindi... No, non scotta. E poi, volevo dire un'altra cosa. Oggi proprio mi sono dimenticato poi di commentare un'altra cosa. Non ridatemi... rivoglio più tempo del genere. Infatti credo che passerò... Questo è più da videoludica. Oggi sul canale di programmi videoludici di Runtime, Shuren pubblica, diciamo, post che in qualche modo è collegato con la terra piatta. Sì, sì. Ci linka, diciamo, la video recensione di un tale di Resident Evil 3 di un tale Vincenzo Monti. Ragazzi, sì, vabbè, ma da poco che esiste quel canale. Io non lo conoscevo, ragazzi, ma io non lo conoscevo. Mi sono visto. Vabbè. Ma io devo dire la verità, che a volte mi domando se è fatto apposta o no, cioè, perché comunque ne ho viste varie. Io mi ricordo la recensione di Uncharted, che manco sapeva pronunciare, che so videogioco, questi so film, che non devi fare niente, parlano. Sì, però quando non scompare la sospensione di incredulità, io sono ancora al terzo quarto video, sì. Poi dopo un po'. Francesco, lasciamo il brano, va, così poi salutiamo gli altri e ce ne andiamo. Certo, il brano è dei Khalifu Ground, che proprio ieri avete intervistato il frontman Gianluca. Ed è una band di una storia particolare, più che una band, nel senso, nasce da un laboratorio musicale proprio fatto da Gianluca all'indomani della strage di Castelvolturno del 2008, in cui dei migranti furono fatti fuori dai camorristi perché si erano un pochino ribellati al caporalato, a tutte quelle condizioni loro. Era nato come un laboratorio musicale e poi hanno fatto una vera e propria band in cui, piuttosto itineranti, perché hanno girato un pochino tutta Italia, anche diversi festival, hanno fatto delle colonne sonore. E la band cambia di volta in volta, quindi la formazione di oggi non è la formazione di domani, ma letteralmente. E tra i vari brani che ci hanno passato, perché ci hanno passato diversi brani, noi abbiamo scelto questo qui, che è Italiani, che è anche una storia particolare che l'ha raccontata ieri. Però rimandiamo alla puntata di ieri di Everything. Sì, andate, cercate, scaricatevi Everything, che la puntata è stata una bellissima intervista, anche molto divertente, tutto sommato, che è anche il tono giusto secondo me per raccontare determinate cose. Va bene, ragazzi, quindi adesso ci ascoltiamo Italiani. Saluto Marco un'altra volta, ciao Marco. Ciao. Saluto Alex un'altra volta, ciao Alex. Ciao. Saluto, ma Alex, quando esce Technopills? Domani mattina, puntata dedicata alla data stellare. Grande, grande. Allora. L'hai sentita poi? No, ma la sento domattina. Ok, vabbè. Bene. Perché io la mattina poi quando prendo, faccio colazione con i vostri podcast. Era tanto che non riesco. Lui mangia i podcast. Era tanto che non ascoltavo i podcast. E invece, questo periodo, il lockdown, mi sono rimesso a riascoltare tutti i podcast di Runtime. E sono veramente contento di farlo. Però lo faccio con le mie abitudini, perché sennò poi mi si sballano tutte quante le cose. Insomma. Bene, ragazzi, allora ci vediamo domattina. Quindi con Technopills. Poi domani sera vi ricordo che ci sarà una puntata speciale live di archeologia informatica sui computer analogici con Roberto Tomaiolo come ospite, quindi insomma sarà una cosa abbastanza carina. La prossima settimana invece, giovedì prossimo, torna live archeologia videoludica con Habitat, che è un progetto, un videogame della Lucasfilms dell'epoca, insomma, che va assolutamente studiato, perché in Italia penso lo conoscano veramente in pochi, perché in Italia in realtà non è proprio mai arrivato, insomma, per tantissime ragioni, ed è una cosa che veramente è abbastanza interessante. Il 2 giugno invece c'è Michela con Mono. Poi vabbè, insomma, cercheremo di aggiornarvi nei prossimi giorni. Come sempre, seguite il canale Telegram Runtime Radio, perché sul canale Telegram di Runtime Radio noi mettiamo sempre, durante il giorno condividiamo quei 3-4 link delle cose che succedono durante l'arco della giornata. Cerchiamo di disturbare il meno possibile, però insomma è utile. Vedo che poi la gente cresce, quindi vuol dire che comunque come servizio è abbastanza utile. Poi ci sono le pagine Facebook, cercateci, fate tutto quello che vi pare. Per oggi Morti di Bestemmie finisce qui, torneremo presto con delle robe più incazzose e sicuramente molto più divertenti. Però insomma sono stato contento di essere tornato. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Buonasera, ciao. Da terra la mattina sin da primus